Se sentite armeggiare, perché probabilmente in questo momento stanno cercando di dare un senso alla loro vita. Che vita di merda! Ruminando tra i cavi, qui sulla postazione di regia. Sentite, allora, sentite. Io devo fare una polemica. Ho portato le cuffie. Strano. Ho portato le cuffie a padiglione e continuo a sentire solo la musica, ma non me stesso. Vabbè, ma che vuoi? Non è che sono quello col volume basso? No, io ti sento. Sono soddisfazioni. Io ti sento come sento me stesso e come sento gli altri. Parla un po', Gusella. Ah, perché c'è? Sì. No. C'è un microfono spento. Io però, capito, anche se provo a potenziarmi, sì. Io non capisco chi sono. Vabbè, non so che canale sono. A te si sente bene, Gusella che non si sente bene. Ciao Enrico. Non mi sento tanto bene. Ma Gusella è da poco che non si sente bene, infatti. Basso. Io non l'ho toccato il mio volume. Boicottano. Non voglio dire niente, ma insomma, adesso ti sento benissimo. Mi boicottano. Va bene. Per magia, non so, i contatti del ginocchio che fa contatto col gomito, adesso vi sento anch'io. Ah, vabbè, così funziona. Funziona, cioè, questa magia empirica. Che ma guarda, se arrivasse anche Gualdi sarebbe tutto perfetto. Ci vediamo fra poco. Che come fa uno studio radiotelevisivo a diventare il bar dello sport, quello dove i vecchi seduti alle panchine cominciano a dire cose a caso, tanto per, e può succedere, queste sono cose che succedono e sta succedendo proprio ora, in questo momento, in questo preciso istante, in questa fantastica trasmissione. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Ed eccoci qua, buonasera signore e signori su Runtime Radio, ottimisti genericamente mortificati, anche detto OGM, con me Marco Gualdi. Buonasera, buonasera. Gualdi al microfono Barzotto. Sì, si stava a fare tutto tranne che entrare in trasmissione, sentivo smachinare cose, ho sentito le smachinime, esatto. Come stai Marco Gualdi? Io sto benissimo. Il cellulare va bene? Funziona? Va, si gira? Si gira anche così. Ok, lo facciamo vedere ai nostri telespettatori. Guardate, in questo momento in diretta su Twitch siamo. Infatti fate le donazioni, conoscete Ciccio Gamer, non lo so, sto dicendo cose così a caso. Walter Sbano, buonasera, sono più mortificato del solito, tra poco vi dirò perché. Giusto, perché noi siamo sempre sul pezzo e c'è la breaking news che fra poco ci spariamo, ma prima della breaking news che tra poco ci spariamo, io alzerei anche un po' il volume dei microfoni, così, giusto per non essere insomma da meno. E c'è anche Simone Gusella. Ciao a tutti. Ciao, perché scusa, prima fatti presentare, poi dopo, certo, dici dopo cose. Parlo. Così, insomma. Allora, quali sono i malanni della settimana? Il malanni della settimana è che Simone Gusella, sapete, l'altra settimana è stata assente perché ha avuto una bronco spastio surcosi, sarcoidosi. Esatto. Sì. Lupus era. Poi era lupus. Amiloidosi, sarcoidosi, lupus. Lupus tutto insieme, esatto. Alla fine era clamidia, vabbè, ma so cosa capita. Si c'aveva la candida Magari, magari. Cioè, la candida candida. Io la lavatrice candid. Candid. No, il dottore ha detto quest'animo è troppo candido. Lui ha frainteso se hai fatto gli antibiotici. Vabbè, comunque gli hanno dato l'antibiotici e mangia come al solito, però si è guarito. È guarito finalmente. Non ha mai smesso di mangiare per tre. Non ha mai smesso di guarire. E questa è una cosa importante. E invece io ho la cistite. Tu Gualdi che c'hai? Tu vabbè, io tu oggi sto bene. Tu sempre i soliti, ogni tanto lo vedi, si piega da una parte. Oggi sto bene. Che state male voi? Ah, oggi stai bene. C'è un livello di malattia che deve essere. C'è deve essere un interscambio, lo dici. Walter? Immagino. Ma io sono l'eccezione a confermare la regola fino a mo. Quindi. Poi, fino non a so. Mo che vuol dire che per... stai bene? Sì, tu sì, bene. Ma me, sì. Questo fino è quello che pensi qualcuno. Tu, Walter, però. Quando tutti noi tre staremo bene. No, io bene. Potrei essere marcio dentro e non saperlo esatto, ancora. Esatto, perché quando tu sai che come... tre staremo bene, tu starei male. Come dice Dottor House, ognuno di noi ha minimo tre malattie, solo che non lo sa. Ah vabbè, ma guarda, io sicuramente ho il colesterolo alto, se si può considerare una malattia. Sicuramente sono iperteso, ma non me ne può fregare di meno. E che altro possiamo considerare? Ci avrò, che ne so, il ginocchio della lavandaia, to. Ah vabbè, il gomito del tennista, quella è importante. Fa contatto col ginocchio, sempre. Bene, io direi di iniziare salutando tutti quelli che ci sono in chat. Cioè, stasera praticamente nessuno. È bello perché sì, c'era Enrico che abbiamo salutato a che ha detto che però ci sarà... ha detto si sentirà singhiozzo. A singhiozzi, così. Allora, è sbagliato a fare la live. Facciamo una cosa, salutiamo quel milione sono, e mezzo tutti, di abbiamo perso sono tutti dall'altro link, esatto. No, perché è già successo, quindi lo sappiamo, sono lì, ma si renderanno conto prima di... o poi. Verso le 21:15 gli verrà il dubbio di questo silenzio prolungato. Cioè. No, però nel frattempo salutiamo quel milione e mezzo di ascoltatori che, come diciamo ogni settimana, silente, si vergogna silente, e non ammette sì. di ascoltarci. Esatto, hai ragione. Giustamente dice, ma chi c'ho? È addirittura talmente si vergogna che non risulta neanche dalle statistiche, però noi... Ma sono bravi a celarsi. Sono bravi a celarsi come i romulani quando utilizzano il dispositivo di occultamento. Allora, Gualdi siccome Gualdi spippola sullo spippolatore, no, mi toglie i canali. A me questa cosa... Adesso ce l'ho anche io. Hai visto? Sì. Vabbè, io volevo... Che facciamo? La diamo la breaking? Sì, partiamo subito con la politica. Partiamo... La politica che dovrebbe avere... Non lo strillare. Scusate, sempre... una sigla dedicata in questo caso, ma non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Che sigla usare? No, esatto, bisogna fare... Bisogna... Allora, tutti coloro che sono in grado, non tanto tecnicamente quanto artisticamente, dal punto di vista insomma del gusto, dell'estetica, di costruire degli assets. Siamo arrivati al pietire del esatto. Aspetta, facciamo una cosa fatta bene. Se siete in grado, avete voglia e amate questo programma, questo programma OGM ha bisogno di voi. Pizzi al telefono, rispondi. Ti cercano. È la pasticchina dell'amore, devi prendere la pasticchina. Devo prendere la medicina del colesterolo, che non prenderò. Comunque, questo programma ha bisogno di voi, quindi createci questi assets, fatelo per noi. Ci servono delle sigle, tipo, che ne so, la politica interna, la politica estera. E anche una sigla, se no io magari comincia a battere, cioè, ma faceva schifo già prima, no. Insomma, quindi vabbè, penso che la sigla è la cosa migliore secondo me. Allora, prima di passare la parola a Walter, salutiamo Rizzard che ancora ci deve spiegare perché. Ciao Peppe, un salutone, un abbraccione a Peppe e a sua moglie Francesca, loro sanno perché. Vabbè, allora intanto l'abbraccione anche da parte nostra, in bocca al lupo, anche se non sappiamo il perché. Però quello che non sappiamo il perché è perché sei uscito dal gruppo dei morti e bestemmie senza di niente a nessuno. Te lo dico io, perché sta morendo di bestemmie troppo. Non troppo. Puoi uscire senza il nostro permesso. Rizzard, non puoi farlo, non si può fare questa cosa, perché poi dopo noi sai che come gruppo fondatore dei morti e bestemmie. No, scusa, tu non mi avevi detto che ci ha salutato con buona aranzulla a tutti, io me ne vado. Ma perché poi ha ragione? Che poi tra l'altro è Salvatore, forse è buon Salvatore, sì, forse è quello, forse è quello. Il Salvatore, no, allora ragazzi, arrivato. Voi, Maria voi non Salvatore. Sapete, ma ne parlavano proprio ieri per radio di Aranzulla, perché, perché quello zozzone dell'informatica fa un sacco di soldi senza motivo. Fattura 2 milioni di euro all'anno, so, con dei tutorial del cavolo. Però non tutorial, lui fa un po' copia e incolla, lui chiappa lui. Però siccome è stato intelligente, ammette tutti gli argomenti possibili dello scibile informatico nel suo sito. In realtà il mostro Ranzulla l'ha creato Virgilio in tempi non sospetti. Hanno voluto creare, quando lui era poco più che adolescente, anzi credo adolescente, hanno voluto creare questa figura, questo personaggio mitologico del nerd informatico italiano, affidandogli alcuni contenuti tematici su Virgilio, che all'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni 2000, aveva un certo peso in Italia, e lì si è creato il fenomeno Aranzulla, che lui ha cavalcato, continua a cavalcare, basandosi sul nulla. Vabbè, tu l'avresti raccogliere cose l'avresti fatto? Sì, l'avresti fatto, l'avrei fatto anch'io, e quindi Beh, intanto c'ha 12 dipendenti, qualcosa di... Cioè, a me sta un po' sui coglioni, devo dire. È una cifra, vabbè. Però devo dire che non posso... Ogni volta che mi sta sul cazzo qualcuno di spero che muoia, insomma. No, senza... io la morte non l'auguro a nessuno, quasi. Però insomma, diciamo anche che... perché sennò poi non ci ascolterebbe nessuno. Ad Aranzulla l'oblio. Infatti stasera non c'è sta nessuno. Possa morire. Glielo auguro. Aranzulla l'hanno creato. Che è ancora adolescente. Che era sì, c'aveva 12 anni quando c'ha avuto il sito aranzulla.com. Sì, lui dice adolescemo. Ah, adolescemo, scusa, ma Aranzulla, alla regà, cioè io continuo a dire scemo o non scemo, quello fa sordi che noi tutti quanti insieme. Guarda, preferisco Aranzulla a che ne so, a Ciccio Gamer, ma lui si impegna, a Favij, ma un qualsiasi brutto. Ragazzi, ma voi potete battere il cavolo di Facebook? Sì, un altro vecchio fenomeno, Carlo di Facebook. Cercate Carlo di Facebook e fatevi una cultura. Vabbè, io volevo dare questa breaking news politica. Ma sì, vai con la perché ragazzi, devo salute. Dire finalmente abbiamo attenzione, un governo. Attenzione. Parte l'applauso qui, sì, ce l'hai un applauso. L'asset dell'applauso ce l'abbiamo. Ma facciamo anche no, lì. Ce l'abbiamo, perché posso. Ragazzi, finalmente abbiamo un governo a cazzo dritto. Bravi. No, aspetta, fermi tutti. Non si può esultare. Perché ci vengono arrestati, ha detto Salvini che si esulta. È vero, ha detto Salvini, poi chiudiamola questa parentesi. Ha detto Salvini che esultare sui social, su internet, verrà punito. Comunque, ma che vuol dire, scusa? Che vuoi fare? Stanno cercando di creare un regime totalitario. Viene la ronda a casa. Sì, io questo l'ho capito che stanno. Ma che significa se si esulta? Cioè, cos'è l'esultazione? Qualunque cosa che non inciti a lui come capitano mio capitano, fondamentalmente. Se parli male di lui e qualcuno incita per dargli addosso, verrà punito con l'olio di ricino. Sembra giusto, perché questa è una democrazia, c'è la libertà. Esatto. Quindi... No, però ragazzi, stasera i complimenti. Cambia il tempo. Izzi, siamo più ricchi. La brutta, perché? Perché siamo ricchi? Senti. Perché Conte, il cartonato, è andato all'Unione Europea, è andato a Juncker e ha detto: noi facciamo il deficit a 2,4. 2,04. Però sotto il 2,4. Sì, un 2 e un 4 ci sono lo stesso. Hanno scambiato gli 0 con l'altro 4, ma è uguale. Siamo lì. Sì, ma per la gente non fa differenza. Dico, vedi, abbiamo fatto come dicevamo noi. Come quella signora, fantastica signora, che hanno intervistato alla manifestazione di Salvini, che ha detto: sì, ma signora, perché lei vota Salvini? Perché sì, Silvio, scusate. Vabbè, reminiscenze. Matteo è uno che con gli occhi stralunati, perché poi le donne hanno sto problema che divinizzano anche Gesù Cristo, ma non in senso religioso, lasciamo perdere. Che no, che ha fatto infilando in un brutto corso, esatto. Perché ha fatto un sacco di cose, ma che cosa ha fatto? Che non vuole sapere, ha fatto e se ne va, signora. Ma la migliore è quella che canta squarciagola, meno male che Silvio c'è. Quella rimane una leggenda. Comunque ragazzi, la buona sostanza dei fatti è che sono andati lì gli esseri inutili del nostro governo, compreso grande il cartone. Io mi domando se Conte lo piegano in due e lo mettono in valigia. Me lo sono sempre Conte chiesto. Conte ha dimostrato che se vogliamo andiamo a battere i pugni in Europa. E andiamo a battere pugni in Europa. Perché come dice qualcuno, pugni e non pugnette. E che cosa otteniamo? Dei pugni battuti. La sbrisolata. Cioè ragazzi, abbiamo battuto i pugni e li abbiamo fatta vedere noi, insomma. Ma guardate come ha cercato poi di rigirare la frittata il Premier, dichiarando: nella negoziazione con l'Unione Europea per il saldo della manovra, dal 2,4 siamo potuti scendere al 2,04. Quindi, come dire, è stato anche un loro merito. Però dice: attenzione, meno male, perché noi pensavamo che dovevamo farlo per davvero. Però attenzione, perché hanno detto che comunque reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti. Va bene, sono contento. No, ma io sono contento, io spero davvero che... Ma anche la frattanza. Aspetta, che poi c'è una postillina. Abbiamo aggiunto qualcosina nel piano dismissioni. Probabilmente, non lo so, venderanno Palazzo Chigi, il Quirinale. No, ho capito. Tocca prendere la cittadinanza somala. Ma guarda, io so solo che... Esatto, che ci tocca. Quest'anno tocca fare tutti quanti i somali. I somari dobbiamo fare, sì, vabbè ragazzi, che vi devo dire? Tu vedi questo che è andato lì, comunque non perché Juncker fosse ubriaco, no, ma Juncker ho visto Mercedes. No, Mercedes che ci saluta in chat, tra l'altro. Salviamo Michela De Paola. Ciao. È il volo dell'ambiguità, sta in due posti contemporaneamente. Ciao. Senti che l'allegria, com'è? Ciao. Vuoi venire a mortificarti con noi? No. Dai, vieni anche tu a dire ciao. Guarda, io ho notato una cosa. Ciao. Io ho notato che quando tu ci sei, Gusella, ti spiego. Devi dire così. Ciao. Ciao. Oh, io pure io. È un po' di più, se... ciao. Ciao. Guarda, è arrivata Michela, Simone Gusella si è proprio si è acceso, si è entusiasmato, è vero. Esatto. Vabbè, perché dopo gli 10 euro va andarsi a comprare la droga. Ho trovato le cose da dire per i prossimi 10 secondi. Vai. Ciao. Basta. Scusami, mi ero quasi illuso. Ma la voglia questa di fare questa idea. Trasmissione per Simone Gusella è un'ottima idea. Continuerò a dirlo all'infinito. È arrivata l'Allabai che ci dice: ciao raga, tutto in rego? E... questa è una ragazza. Ma peggio di così non può andare. Quindi, ciao. Ciao l'Allabai. No, più che altro io stavo cercando di nascondere il rumore dalla lavatrice. Venendo qui a fare rumore ancora più forte. Lei in che modo nasconde i lavori della lavatrice lasciando la porta aperta? Secondo me, ragazzi, il rumore della lavatrice è molto più interessante di questa trasmissione. Quindi io alzerei il volume della lavatrice, se è possibile. Esatto. E Michela, se vuoi parlare, vai sul microfono di Simone, che è quello che funziona meglio. Che se siamo fortunati con la centrifuga, becchiamo anche Radio Maria. Quindi facciamo anche un crossover radiofonico. Perché qua non tanto, ma forse i nostri ascoltatori sapranno che su a Ponte Galeria, quelle zone lì, dalla lavatrice si prende Radio Maria, e che non è da tutti. Ah, raga, io l'ho detto, noi abbiamo fatto puntate inutili, ma stasera veramente proprio. No, io sono veramente proprio brutto. Io sono rapito da quello che sta facendo Gualdi per cercare di sistemarsi il microfono. Cioè, è un quarto d'ora. Stava verso la spalla, mi si sente? Sì, ecco. Si sente. Oh, guarda, sente benissimo. Oh, finalmente dopo 9 anni. Bravo. Ma perché ci devo mettere mano io? Esatto. E no, chi ce deve mettere mano? Sai dove devi mettere? No, meglio di no. Un applauso, veramente. Grazie. No, niente sussazione. No, senti, mi stanno battendo. Vengono le guardie. Prego, Michela, prego. Appena letto una breaking news che troverete su internet. La devi stare vicino al microfono, però. Che troverete su internet, in cui praticamente esplode un serbatoio di cioccolata e la gente l'ha assaltato. Quindi... ma davvero un'esplosione figa. Ma come non lo sai? Lo so, legge poco fa. E vai su internet, vatti a formare, ci dai queste mezze intorno. Ah, ci fa sapere intanto Davide Gatti che oggi arriva tardi e manco riesce ad ascoltarci. Quindi tutto ancora qua, ora manda quei certificati, Davide. Vabbè, Davide, questi maledetti SSL. Ma però Lizard ha detto una cosa interessantissima qua. Lunga e quindi troppo lunga. Comunque io sto cercando esplosione cioccolato. Nel frattempo invece purtroppo poi alla fine l'esplosione c'è stata per davvero. Anzi, non è stata l'esplosione, ma ieri sapete che purtroppo a Strasburgo praticamente, e qui ci interrogavamo a cena, mettiamo la musica. No, sbagliato. No, scusate. Direi che non è il caso. Se volete prendo quello il curatore di pressione, mi sa. No, lascia, no, quella è veramente. Però la prossima volta la facciamo sentire. No, non va a prendere, vabbè, oramai è incontrollabile. Mercedes tocca licenziarla. E l'abbiamo chiamata noi. E niente, praticamente pare che ieri a Strasburgo. C'è stato questo attentato al mercatino di Natale. E noi durante l'ora di cena, a parte, vabbè, ovviamente. Posso dire amaramente, ormai sta diventando una moda? Ma anzi, era pure un po' passata sta moda. Beh, anche quando è stato? 2 anni fa o l'anno scorso in Germania? Non ricordo. Guardatevi la musichina. Però... Aspetta. Vabbè, si fa tra, devi misurare la pressione. Allora, voi non sapete, ragazzi. Però dovete spiegare, perché se non contestualizzate... Ci metti il braccio, vabbè, questa è la musichina che accompagna la macchinetta del per misurare la pressione cinese, perché ti devi rilassare per tirarti un po' sul bello passare da Strasburgo l'attentato comunque macchinetta. Ragazzi, per fare un pezzo alla Salvini, ragazzi, pensate che noi ci siamo stati solo 4 mesi fa. Dove? Sì, a Strasburgo. Ah, è vero. Quindi abbiamo rischiato la vita. La Madonna. Scusate, dobbiamo fare un pezzo da Salvini. Fra 4 mesi fa stavamo lì e abbiamo rischiato la vita. No, proprio siamo salvi per miracolo. Dobbiamo dire che Strasburgo è molto bella. Strasburgo è veramente molto bella. Io è pieno di francesi. Al di là di essere poi dispiaciuto, no, per quello che è successo, e chiaramente insomma anche la cosa drammatica. Però io continuo a domandarmi insieme a Walter come si fa al centro d'Europa ancora a subire attentati del genere con questi che oramai sono sicuramente sì, con questa frequenza, schegge, con questi ritmi, cioè... schegge impazzite, perché questi secondo me non hanno più neanche un coordinamento, però questi trovano le armi, cioè, voglio dire, cioè, l'intelligence francese e belga non riesce a tenere sotto controllo questa situazione, per me è veramente un po' segno del fatto che non tutti sanno fare il loro mestiere. E nel frattempo Rizzard, che si deve essere gusellizzato questa notte, ha lanciato una freddura. Dice: attentato al mercatino di Natale. E ci credo, con quei prezzi. Che tristezza. Mamma mia. Vabbè, detto questo, io vado a stendere la lavatrice. Infatti, tutti sì. Divertitevi tantissimo. Ciao. Beh, ciao. Comunque ha tentato e ci sono anche riusciti. Ciao. No, vabbè, basta, raga, porto via. Vabbè, non si scherza su queste cose, comunque. Continuiamo a parlare di stronzate. Tipo, hai trovato, Gualdi, l'esplosione di cioccolata? No, non l'ho trovata. In realtà ha fatto cioccolata, esplosioni, ma non è scappato niente. Sono scappate. Di cioccolata. Guarda, allora. Oh, ma Gisella, se lei... Torta magica al cioccolato. No, un'esplosione di cioccolato. Non perdetevi la proposta di Ernst Mann. Ma non è che era, come dire, il tuo sogno erotico di stanotte, questa cosa, no, della città di cioccolato. Perché non si... esplosione della fabbrica di cioccolato, però del 16 febbraio del 2013. Quindi non credo sia questa. È una cosa recente, insomma. Allora, vediamo se, esplosione serbatoio. E che esce l'esplosione del serbatoio. Nel frattempo vi racconto che quando nel 1980 sono stato in Nuova Zelanda, cioè. Per la precisione, no, l'esplosione della cisterna di distributore operaio, va bene, cioccolato, cioccolato, stessa cosa. Cioè, quando nell'87 sono stato in Nuova Zelanda, e per la precisione in questa città dell'estremo sud, a Dunedin, mi ricordo c'era una fabbrica di cioccolata in città, anzi alla periferia della città, e quando tu andavi al centro della città sentiva l'odore di cioccolato, ma terribile, cioè terribile, sembrava di stare dentro una città di cioccolata, e c'avevi sempre la voglia di mangiare sta cioccolata. Anche a Mosca c'è una fabbrica di cioccolata davanti al Gorky Park. Al Porky Park. Comunque, non ti sente nessuno, Michele. Al Gorky Park, di fronte al Gorky Park c'è una fabbrica di cioccolato, e si sente questo odore molto forte. Va bene. Quindi pure i russi hanno la cioccolata. Sì, ma ce l'hanno radioattiva, però. Beh, per esempio, anche spesso quando vado giù dalla mia ragazza a Napoli, passiamo in una zona in cui c'è la fabbrica della Kimbo, e lì c'è odore di caffè tostato 24 ore su 24. Beh, come vicino a casa mia, da Grate, c'è la Star, invece, lì c'è... No, da te c'è sta il coso, il... come si chiama lì? Il gorgonzola, l'odore del gorgonzola. C'è la nebbia, c'è la nebbia. C'è l'odore della puzza di nebbia. Anche la gorgonzola. Ciao ragazzi, ciao. Torni a fare le sue facce. Torni a fare la lavatrice. Bravo. Che è importante, sì, questo. Se qualcuno si dovesse eventualmente domandare perché questa puntata si intitola 666 scemo, a chi possiamo domandarlo se non a Marco Gualdi? Perché purtroppo il demonio è tornato. Lo demonio. Però come si associa? Ciao Virginia. Il 666 scemo alla faccia di Enrico Ruggeri, che sta nella cover dell'evento. Che questa cosa me la sono persa anche oggi, domandavo, però non mi è stato poi spiegato. Io non ho domandato. L'Alabai c'ha la domanda più seria, più grave, più concitante di tutto l'anno. Dice: ragazzi, ma a Capodanno che si fa? Così, a cazzo de cane, proprio. No, tu che fai? No, ma sono tu che fai? Esatto, proprio. Noi, guarda, per de norma, noi andiamo a mangiare da Dinzu come tutti gli altri giorni dell'anno, e poi andiamo al Fiddler's a Roma, e questo è il nostro programma. Tu cosa fai? Dici che magari ci piace di più. Comunque, tornando a bomba, è brutto parlare di bombe quando ci sono stati attentati. Enrico Ruggeri praticamente ha deciso di dire la sua. L'effetto Marco sul microfono è durato poco. Ragazzi, sto qui, sto appiccicando. No, adesso sento, è proprio lui che non c'ha la canna. No, il discorso è che Marco guarda il cellulare, invece. Ho capito. No, sta posizione, stavolta non gli si può togliere. Non posso. Allora, si propongiti. Enrico Ruggeri, spiegando che cosa ci sia dietro il successo, comunque dietro il nuovo album dei Decibel. Tutti voi penso conosciate i Decibel. Sì. Che sì, è l'unità di misura del suono, solidità di misura dei brani di il nuovo album di questi Decibel si chiama L'Anticristo. Ah, non lo sapevo. Esatto. E secondo appunto Ruggeri, che a un certo punto il famoso Ruggeri dei timidi, sì. Esatto. No, Enrico Ruggeri, il nostro Enrico Ruggeri. praticamente ha cominciato durante un'intervista a uscire un po' fuori dal seminato e a dire praticamente che nel mondo esiste un anticristo vero. È uscito dall'inseminato. Un anticristo vero. Cioè, perché sa pure l'anticristo. C'è anche quelle, spaccia per non tale. Quelle parlate uccellate, cioè un anticristo. Praticamente dice che c'è questa loggia di persone, di potenti, che manipolano un po' tutto. Non so se riuscite a stare giù. Ma secondo me, a parte che c'è. Cioè, scandisci tra una parola e l'altra, cioè, mi sale il ducking praticamente. Però dico, cioè, a questo a fare misteri gli ha fatto male. Infatti, faceva misteri lui. Sì, ma infatti, lui c'è rimasto dai misteri, non c'è mai uscito dai misteri. Praticamente è convinto che ci sia una decina o una quindicina di persone che si trova da qualche parte nel mondo e decide chi potrebbe essere il presidente degli Stati Uniti. Ah, Bilderberg, il gruppo, molto di più. No. Infatti, cioè, questa cosa mi ha fatto pensare che gli Illuminati. No, è l'anticristo. Di più. È l'anticristo. Il gruppo Cristo anticristo è un po' come materia antimateria. Se si toccano si autodistruggono, cioè, si annichiliscono. No, si annichilisce tutto. Si trasforma in energia. Tutto. O antienergia. Energia pulita almeno, spero. Ciao. Oh, comunque, ciao. Sapete, a proposito di energia, no? Pensavo, oggi leggevo le primissime indiscrezioni sulla... Aspetta, no, ma finiamo perché è interessante questa cosa, scusa. Ruggeri dice che non sa chi siano, strano. Strano. Ma sa che ci sono. Sa che ci sono ed è sicuro che non siano persone famose, ok? E certo. Vivano in maniera monacale e il loro interesse è modificare gli assetti mondiali. Questo per noi, io parlo in plurale, quindi non so se è il plurale maiestaris oppure è un gruppo di persone che la pensa come lui, ha come obiettivo l'abbassamento della consapevolezza della gente. Ok? Tutto chiaro, mi sembra. Sì, no, sì. Però io penso una cosa, che fa l'anticristo, cioè una di queste 15 persone che vivono in maniera monaca, mazza che palle. Cioè, tutto ma chi vuole fare? Solo che decide chi deve fare cosa. No, perché cioè, adesso facciamo fare a troppa. Che divertimento. Poi si guardano in faccia, mazza in palle. Cioè, veramente. Sì, è un po' la trama di Assassin's Creed, come dice giustamente Piergi. Ma a proposito, devo ancora vederlo. Io mi domando sempre, perché questa cosa, perché io vedo tutti questi che parlano la terra piatta, la Matrix, tutto. Ma loro, queste cose, chi gliele dice? Enrico Ruggeri, pure Enrico Ruggeri, no? Che lui sa queste cose qua. Glielo dice Andrea Miro. C'hanno le voci nella testa che sanno tutto. Il famoso omino del cervello. Però attenzione. Salutiamo Pasquale Ricchia. Lui continua a scagliarsi un po' contro i gruppi moderni. Rincara la dose. 30 anni fa i gruppi c'erano musicali moderni. Musicali. Vabbè, certo, si sono un po' di palo in frasca. 30 anni fa c'erano Bob Dylan e John Lennon. Adesso chi c'è? Bob Dylan è il figlio di John Lennon. Beh, però su questo un po' c'ha ragione. È tutto standardizzato. Si è voluto eliminare la forza dirompente dell'arte per renderla innocua. Quindi sarebbe una questione di decadimento culturale. E lui ne sa tanto, Esatto. No, però questo è vero. Diciamo, no, non è che è sbagliato attenzione. Il concetto. Diciamo che detto da lui fa ride. Cioè. Esatto, lui che fa chiude. Questi discorsi è come quando Biagio Antonacci nomina il rock. Esatto. È la stessa cosa, però. Il fatto che una volta ci fosse Lennon e ora abbiamo gli One Direction. È un caso? Ma poi perché i One Direction? Ci sta di peggio, cioè, da dire. Confutare esatto. Questa, La qualità dei polli deriva da quella del mangime. Appunto, hanno cambiato mangime. Chi lo distribuisce? Quegli artisti influenzavano il mondo. Quando Lennon con Yoko Ono fece il bed in per dare una chance alla pace, i giovani bed and breakfast, e la stampa arrivarono da tutto il mondo. Ora cantanti e artisti non hanno più peso sull'opinione pubblica, perché non so più cantanti, so più artisti. Sì, esatto. Allora, ragazzi, il mondo musicale è cambiato con i talent, perché grazie ai talent i produttori musicali hanno fatto in modo di poter, è finita la base, hanno fatto in modo di poter si liberare del peso di quelli che sono gli artisti canonici, quelli per definizione. Ma non era finita, se la sono interrotta. Puntando praticamente a produrre giovani assolutamente senza arte né parte, che non hanno quindi, tra virgolette, una velleità di veri artisti, e quindi non rompono i coglioni, passatemi il termine. Tanto sono fenomeni usa e getta, quelli che escono dai talent, tanto talent. Ma poi sì, non hanno qualche disco, tranne qualche caso eccezionale, qualche concertino e... qualcuno bravo dai talent c'è anche uscito. Però diciamo che la maggior parte te li dimentichi tipo un album o due. Tipo cosa? Tipo chi è che c'è uscito? Sono più che altro comunque. Ma, allora, interpreti. Premesso che non è tanto il mio genere musicale, però per esempio Marco Mengoni ha avuto una certa, una discreta carriera. Che schifo. Ha avuto, cioè, come si chiama quel gruppo di giovanissimi che ha vinto X Factor? Non ha vinto, sono arrivati l'anno scorso secondi X Factor, ma sono molto bravi. Erano i Maneskin. Ah no, tipo due anni fa, sì. Beh, diciamo dai, qualcuno bravino c'è. Beh, pure qualcuno i negri bravino dell'altro anno erano simpatici. Dell'altro anno. No, allora io non seguo. Come si? Ma lei no, che so band sono? I negri dell'altro anno. Io non seguo questi talent, quindi tutti non me li ricordo. Però diciamo che, ecco, da X Factor qualcosina di discreto può anche uscire fuori. Diciamo dai talent della De Filippi escono più fenomeni da baraccone nazional popolari. E di quelli ne farei volentieri a meno, dei vari, con tutto il rispetto, Emma, quell'altra come si chiama, Alessandra Moroso, Emma Bonino, Alessandra Mussolini. Sì, no, lascia sta, per favore, per piacere. Hai visto, Olivier Toscani ha chiesto scusa alla Meloni? Non era in sì, ha fatto male. Vabbè, cioè, vabbè, sì, rischiava la denuncia, però. Vabbè, ho capito, però. La querela. Sei cazzo che frega, Olivier Toscani. Beh, insomma. Fanno allora, poi dice Peppe Rizzard, dice non se non sono i talent, ci sono i producer senza scrupoli che mettono in giro schifezze come Young Signorino, eccetera, eccetera. In realtà ti devo dire che Young Signorino è diventato famoso viralmente perché faceva i video su YouTube, ma nessuno si sarebbe mai sognato di produrlo. E probabilmente tutt'oggi nessuno lo produce. È diventato e un questo è il problema: è che grazie a YouTube non c'è più il filtro produttivo. Non c'è che pudore. Esatto. Poi purtroppo ogni generazione ha i suoi gusti, i suoi stili, i suoi fetici. Quella attuale c'ha veramente gusti di merda, ma probabilmente io, come dico sempre, i nostri genitori dicevano la stessa cosa di quello che ascoltavamo noi. È un po' come una sorta di ciclo della natura che sono si deve... assolutamente d'accordo, però c'è anche un valore oggettivo, tecnico e artistico che va sì, considerato. Secondo noi sì, però secondo me la musica, il pensiero no. Cioè, secondo me mio padre poteva dire che negli anni 50 la musica era più bella di quella degli anni 70, che lo poteva dire, è vero. Che fosse vero, no. Cioè, nel senso, sì, certo, che secondo me negli anni 70 la musica è la più bella. L'esplosione della musica, certo, è la musica più bella di sempre, quella degli anni 70, perlomeno nell'ambito rock, intendo dire. Poi, a proposito, finalmente ho visto il film che dovevo vedere, che voi avete già visto. Ho visto Bohemian Rhapsody. Ah, io non l'ho visto. Guardi, allora sguardi, perché a questo punto, dato che se lei allora dobbiamo fare una cosa così, un secondo, e poi torniamo. Questa era Barcelona, che l'abbiamo ascoltata così due secondi, la teniamo un attimo come base. Barcelona, non Real Madrid, che oggi ha perso contro il CSKA di Mosca. Esatto, non è la dimonica. Come del resto anche la Roma contro il Victoria Pilsen, però la Roma era già cosa qualificata. A me piace e ha permesso al Victoria Pilsen di andare in Europa Barca, League. Soprattutto se pieno di sushi. Brava, la barca di sushi vince su qualsiasi giustamente cosa. Giustamente Pier G ci fa notare, assolutamente sì, che questa canzone è di Freddie Mercury da solista e non dei Queen. Sì, però era un omaggio così. E sti cazzi! Così. Non esultiamo, ragazzi. No, non si può perché. Sono arrivati nei guardi. Però non siamo su Facebook. Allora. Potremmo non so, guardi, ma questo film su questo biopic, come si usa dire, su Queen, lo andrà a vedere o no, ne vuoi... no, quindi possiamo parlare? Sì, sì, sì. Non c'è aspetto, ma hanno spoilerato che lui muore alla fine. Sì, esatto. Sì, ma nel film non si vede, quella esatto, la figata. Non nel film. Ti lascio esatto una sospensione che potrebbe anche non essere morto, cioè, che magari ci fanno cioè, seguito, magari fanno magari cambiano il finale, si fa alle volte tra il libro e il film, che ne sai? No, allora, in realtà il film narra la storia dall'inizio della band, con una serie poi ampia di adattamenti e licenze poetiche, fino all'Live Aid del 1985, non va oltre. quindi metà della storia artistica dei Queen. Beh, perché sarebbe beh, perché quello è il momento più alto. Seguito, poi ci fanno perché ha finito i soldi. No, no, perché quello è comunque il momento più alto. Ricordiamo un film che è durato, cioè, che praticamente è durato 10 anni. Quanto ci hanno messo? Beh, in realtà ce n'è voluto a farlo. Ci sono stato un sacco di vicissitudini. Prima è cambiato il protagonista. Poi hanno licenziato Bryan Singer a 2 settimane dalla fine delle riprese. Ma la cosa bella è che poi nei titoli c'è citato solo lui. Però vabbè. E poi è ridicolo veramente, cioè una cosa del genere. Vabbè, comunque, cioè a quel punto stringi i denti e vaffanculo. Ma lì vai a sapere quali sono le dinamiche. Questo che... sì, infatti. Però devo dire, secondo me alla fine ha detto, secondo me, a un certo punto esplode tutto, cioè esplode tutto. Quanto tempo se so, può essere pure. Quanto tempo prima sei ritirato? No, 2 o 3 settimane. Sì, sì, oramai era finita. 3 settimane, si è alzato il petto. Ma a me quindi mi sono sempre stati sul cazzo e sei andato così battendo la porta. Beh, ma un po' è successo, potrebbe succedere come a Zack Snyder. Beh, non che ha fatto, ha lasciato, è stato licenziato sul set di Justice League, che poi è stato finito da Joss Whedon, che mi si è alzato a un certo punto. Ma me batto, ma è sempre stato sul cazzo e se n'è andato via. Probabile stessa dinamica, penso di sì. No, dicevo, il film da un punto di vista poi della ricostruzione scenografica, scenica, della somiglianza dei protagonisti era impressionante. No, allora, già detto, spieghiamo questa cosa un attimo a Pier G, sì, che lui dice perché nel film dicono che lui era pakistano. Non è che dicono che lui era pakistano, è che per gli inglesi quelli che assumiavano lo chiamavano per sfottere, li chiamavano Pachi, li chiamavano Pachi. Nel film viene spiegato che lui è di origine persiana, nato a Zanzibar, dei persiani, ma non iraniani, proprio di quella che era la discendenza dell'antica Persia, e spiegano che lui è nato a Zanzibar e tutto il resto. Assolutamente non è definito pakistano in nessun modo, è sfottuto. Sì, perché li chiamavano Paghi, era il modo per... Sì, anche sì, purtroppo. E niente, Freddy nasce a Zanzibar, sì sì, l'abbiamo detto, sì, tranquillo. Sì, sì, assolutamente sì, siamo tutti consapevoli della biografia da prima del film, tra l'altro. Allora, ma poi mi è piaciuta molto. Allora, bravo, io volevo raccontare una chicca che io non so, vabbè, non è uno spoiler perché alla fine non c'è niente da spoilerare, no, una storia così biografica. Però c'è una scena che è geniale, che io non so se l'avete colta. Quando allora, premesso, nel film è stata introdotta la figura di questo produttore che ex produttore, cioè già produttore di Elton John, li produce anche loro e va in conflitto con loro quando c'è da decidere di usare come singolo Bohemian Rhapsody invece di Love of My Life. Il produttore dice una cosa che potrebbe cadere nel vuoto. Allora, quel produttore in realtà non esiste nella storia vera dei Queen, perché i produttori durante la vita dei Queen se ne sono alternati tanti. Quel produttore è stato inventato per fare una genialata. Lui dice a un certo punto, spiega che Bohemian Rhapsody dura 6 minuti e quindi le radio non l'avrebbero mai trasmesso, e per dire che non è un brano adatto a fare il singolo, non è un granché, dice questa battuta, dice: non sarà un brano che farà scuotere la testa in macchina alle persone. Sì, e poi c'è la citazione, dov'è? Che l'attore che interpreta quel personaggio è Mike Myers, e la citazione è da Fusi di testa. È una cross citazione geniale. Mi sono venuti i brividi proprio. No, ragazzi, era geniale. Poi fate come vi pare. E niente, è quindi cross mediatica. È cross mediatica, è fighissima. Quel personaggio è stato introdotto quasi apposta per fare questa battuta. Comunque, in buona sostanza, il film è biografico con licenza, nel senso, sono molte licenze, è comunque una fiction, non è un docu-fiction, cioè non è fiction italiana, per fiction si intende comunque un lavoro di finzione, è che in Italia le fiction sono tutte delle serie TV di merda che trasmettiamo noi. Ok, però vabbè, cioè, infatti, non è fiction italiana, vabbè, comunque è fiction. E non c'ha intenti documentaristici, è semplicemente l'interpretazione anche dal punto di vista registico, insomma, leggermente edulcorato quella che è la parte biografica sulla vita di Freddie Mercury, e tra l'altro hanno, diciamo, cercato di fare, secondo me lì si vede un pochino la malizia di quelli che sono stati i due Queen superstiti, Brian May e John Deacon, perché Roger Taylor si è proprio chiamato fuori quando è morto, no, l'inverto sempre, scusa, May e Taylor, perché John Deacon, quando è morto Freddie Mercury, ha detto: signori, per me i Queen sono morti con Freddie Mercury, e si è ritirato dalle scene musicali. I due Queen superstiti che hanno messo un po' di, come dire, sono stati consulenti di questo film, un pochino per uscirne un pochino più protagonisti, ci hanno un po' lavoricchiato. In quel film Brian May esce un sacco, ma non lo so quanto lui, alla fine il resto dei Queen, con tutta la buona volontà, vivevano all'ombra di Freddie Mercury, loro malgrado, no? Beh, loro malgrado, loro sono sempre accontentati di questo fatto. No, ma da un punto di vista, sì, per carità, ci sta quando hai una prima stai donna. Stai a fare la sagoma di Freddie Mercury, insomma. Cioè, no, ma poi, no, ma poi al di là di tutto, questo è il film di Freddie Mercury. Brian May è stato un grande chitarrista, Deacon e Taylor, bravi musicisti, ma non ce li ricorderemo, ecco. Per qualche motivo particolare, se non per essere stati due membri dei Queen. Però il film, devo dire, sì, nel complesso suona bene. La figura di Freddie Mercury è leggermente edulcorata, malgrado certi eccessi fossero reali. Altri eccessi sono stati un pochino sfumati. Però ci può stare, per carità. Ripeto, serviva ad evitare di renderlo troppo assoluto e centrale nella trama del film. Sennò gli altri tre veramente non sarebbero usciti minimamente. Ma secondo me il protagonista di questo film era la musica. Semplicemente per me era Ozzy Osbourne, anche sì, e poi David Bowie pure, che si vede in un fotogramma, esatto. Bob Geldof si vede un c'è po' comunque più. Da considerare appunto con tutto il concerto, cioè i 10 minuti che c'avevano loro nel concerto di Wembley, esatto. Che praticamente è ricostruito fedelmente, sì, pezzo per pezzo, in maniera maniacale, e veramente ben fatto. E secondo me il solo quei 20 minuti finali, insomma, del film, comunque alla fine vale il biglietto, se l'hai visto in un cinema adeguato, con il pianto adeguato, certo, comunque è un film retto effettivamente dalla musica. Però devo dire che è un film che non ha scontentato nessuno, cioè non è un capolavoro, però è un film che si lascia guardare bene, è piacevole, e alla fine esci fuori sempre col fatto che quando c'è della musica con i controcazzi, alla fine dici manca qualcosa a questa generazione. Quando c'erano loro. Vabbè, d'altronde tu che c'hai 20 anni, ascolti la musica degli anni 70, evidentemente ti sei reso conto. Ascoltati un Sfera e Basta, Simone Busella. Tu che, voglio dire, sei un millennial, o poco ci manca? No, non si sente a me, ma tu lo vedi, ma come fai a definirlo un millennial? No, però dico, tu che anagraficamente sei molto più giovane di noi, mettiamola così, diplomaticamente, come giudichi, come valuti e come vivi la musica contemporanea? Una merda. Non la vive. Gli facciamo una merda. Ma solo quella italiana, noiosa, o in generale? Tutto uguale. Ma in generale. Tranne un brano. Anche un artista italiano. Che vince su tutti. Cioè un artista italiano che lui conosce. Tranne Sfera e Basta, tranne sfera e basta. Ma no, ma le focaccine. Le focaccine lunghe, ragazzi. Ma c'è anche Caparezza. Scusate, dai, a proposito di... Ah beh, Caparezza è vera ragione. Per fare un gancio mediatico a un'altra cosa brutta successa, a proposito, la storia della bomboletta dello spray urticante usata per seminare il panico durante l'attesa in discoteca nelle Marche prima di un concerto di Sfera e Basta, che ha causato la morte di 4-5 persone, tra cui tre giovanissime e una mamma che, per difendere la propria figlia adolescente, le ha fatto scudo col corpo e a 39 anni è morta, lasciando altri tre figli. Io purtroppo non voglio commentare questa cosa, però c'è un motivo per tutto. Quale cosa? E ce lo dice tutto. Ce lo dice l'esorcista Don Antonio Mattatelli. Ah, sì, interessante. Ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2. Ma invitiamolo anche noi. Fatti. Se va a Radio 2, sicuramente se non viene da noi. Che ci viene? Allora, il signor Antonio dice: Sfera e Basta? Ho letto il testo di una sua canzone e mi sono messo le mani nei capelli. Leggi quelle di Young Signorino. La notizia è che è calvo. No, non è vero. Dietro messaggi simili c'è il demonio. Lo demonio. Vabbè, quello che giustamente diceva anche Enrico Ruggeri. Io e Marco siamo d'accordo. Ragazzi, c'è sempre lo demonio dietro a qualunque cosa piacevole della vita. Il demonio ultimamente sta sbancando, la funzione. Le azioni del demonio me lo danno in salita il demonio. Sì, sale. Come diceva, ricordo quale personaggio famoso, sceglierei il paradiso per il clima, ma per il resto meglio l'inferno. Per la compagnia, meglio l'inferno, esatto. Direi che è riassunto. D'altronde ci starà anche Gandhi all'inferno, perché non era cattolico, per cui giusto. Va da sé. Certo. Comunque, a proposito di Satana, di Satani e di demoni, c'è quest'altra notizia che, per cui secondo la spariamo subito, perché comunque, questa è vera, questa è purtroppo vera. È vera, in cui il leghista Cerasani, che è il capo di gabinetto del ministero della famiglia, quindi attenzione, cioè, non l'ultimo degli stronzi, dice che praticamente, facendo un sunto, se c'è il riscaldamento globale è colpa di Satana. E certo, che riscalda, sì, l'inferno. Vero, vero, giusto. Ha alzato la caldaia e ragazzi, d'altra parte, sta creando il presupposto per la stagione invernale, giusto? È colpa del diavolo e dei peccatori. Sono parole sue, tratte dal suo ultimo libro. Ha pure scritto un libro, certo. Lo diciamo? No, già è troppo. Il Vangelo, comunque, il sottotitolo è Il Vangelo degli ultimi giorni. Che praticamente ci sono proteste dei laici che dicono: ma che cazzo stai a dire? Anche giustamente, diciamo. E fiumi di satira, strano, perché noi in Italia la satira non, cioè, perché satira presa per il culo non la facciamo assolutamente. Si aggiunge che nell'uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore anche un po' trascendentali, agisce la tentazione, e nel suo libro cerca di spiegare come Satana negli ultimi tempi che precedono la parusia o parusia, la venuta di Gesù Cristo sulla terra per la fine dei tempi, cioè chi lo fa fare tanto bene in paradiso, sarà scagliato Satana sulla terra con grande furore, sapendo che gli resta poco tempo proprio per prendere di mira il creato e le creazioni. E che è un punto. Vabbè, scusa, però ci dicesse logica. Quando arriva sta apocalisse? Quando arriva fra un po', perché praticamente. Ma arriva insieme a Nibiru, no? Poi no, sì. Perché se, voglio dire, scusate, no, io devo versare l'acconto IVA 2019. Se hai capito? Certo, giustamente. A saperlo la versi subito, no? Lo so, che devo fare? Diceva che praticamente, secondo lui, gli ultimi avvenimenti praticamente fanno parte di uno scenario. Fanno parte di uno scenario che non è mai accaduto, praticamente. Che è molto pericoloso per la sopravvivenza dell'essere umano. Cioè, certo. Satana ha aperto le porte dell'inferno per qui. Scusi, fate varia qua. Il problema è che lì fa caldo, per cui sta diverso tutto qua. Cioè, ma certo. Mannaggia, ragazzi. Mannaggia la peppetta. Capo, ragazzi, di gabinetto del ministero della famiglia. Questo, anche se in quelli piccoli, se c'è le dita su quelli piccoli, c'è le dita sulle stanze, nella stanza dei bottoni. Del sono bottoncino. Piccoli, comunque, ragazzi, ma ce l'ha là sopra. I complimenti, perché questo governo, che sia la parte verde, che sia la parte gialla, è tutta marrone, ragazzi. Sì, però. Cosa fa giallo più verde? Marrone. Però io dico, giallo più verde non fa marrone. Hanno la capacità. Ma perché mai rispondi? Perché fa marrone. È prosaico. Fa marrone. Vabbè, è prosaico, lascia sta. Non siamo a fare i colori questo complementari qua. Il marrone prosaico. Allora, poi c'è qualcosa sul marrone. No, riescono sempre a mettere in ogni posto, tra le persone sbagliate possibili, riescono a mettere la più sbagliata che c'è, loro ce la mettono. Cioè, è proprio un'attitudine unica. Raga, io vorrei niente, ma è meglio uno Juncker ubriaco che Antonelli sobrio. Cioè, poi ricazzo, Oppure è meglio un culo gallo in panza, che una panza gallo al culo. Gusella, hai riflettuto su questa cosa? Su internet. Meglio un gallo culo in panza. No, devi riflettere, devi darci una risposta. Lui è talmente terrorizzato a rispondere a questa cosa, che secondo me, perché ha capito che c'è il trabocchetto. C'è qualcosa che non va. Però c'è non, il trabocchino. Che volgarità. Che poi tra l'altro l'Allabai non ci ha detto che fa a Capodanno. Ah, è vero. Siamo rimasti con la pietra nascosta la mano. Siamo rimasti con sto io chiuderei. Scusate, posso dire una cosa? Pizzi ha pubblicato su Facebook una nostra foto nello studio in cui si vede alle mie spalle il cavallo di Ghost Rider. Vorrei capire perché. Che si vede? Il cavallo di Ghost Rider, praticamente. No, è il cavallo zombie quello. Ma L'ex abitante di questa camera ci riusciva a dormire con questa presenza? No, lui era contentissimo. Non vedeva l'ora di chiudere gli occhi e dormire. Pensando al cavallo senza occhi che gli correva incontro. Quando gli hanno fatto vedere la stanza appena arredata, è entrato e ha detto: oh, che figo, sono a cavallo. Andiamo avanti. Allora, io parlavo di marrone. Ciao, perché praticamente. Ma marrone chi? Luigi? Mercedes. Silenzio. No, ma dai, ma cosa? A parte che non è bello quello che hai detto, quindi lasciamo perdere. Andiamo, vada via, per favore. Comunque, praticamente, ultimamente il nostro vero premier, cioè Matteo Salvini, perché purtroppo è il nostro vero sì, premier, di fatto è così, ha pubblicato su Twitter diverse pubblicato il verbo pubblicare pubblicato hai detto pubblicato su Twitter. Ah, poi raccontiamo diverse... cosa ha fatto in Israele, perché mica non si ferma mai. Dopo ha pubblicato su Twitter e anche su Facebook e su altre eminenti testate giornalistiche, appunto, come appunto Facebook, anche su Netlog. Non lo so, può darsi. Non esiste più. Reddit, però. Ma non esiste foto. Netlog, scusate, esiste no, ancora? No, come no? Non sei mai uscito. Ma io praticamente ho conosciuto mia moglie su Netlog, quindi. Sì, pensa un po'. Brutta gente, così conto. Potevi conoscere Secusella, pensa che brutto che sarebbe stato. Comunque, in ogni caso, visto che lui ha cominciato a pubblicare foto di gattini, sente quella, pubblicate la foto dei vostri bambini pelosi. Mamma mia, oppure in modo le foto delle ruspe, le foto dedicate al calcio. Adesso ha cominciato a postare della roba che mangia. E non ho detto. Ma chi? Salvini, cazzo. Ma davvero? Sì. Chi, lui? Ragazzi, Salvini che mangia, sta sempre a lavorare. Salvini che mangia, e ho detto della roba del mangia, non a caso, insomma. Non ma è mangia la... almeno la cassola, mangia non la so. Roba... Quello che ha pubblicato ultimamente era una foto, praticamente, con su scritto prima gli italiani. Prima gli italiani, e ha scelto un piatto di spaghetti Barilla conditi con ragù star. Vabbè, cioè, abbiamo lo sponsor. Il risultato? Potete immaginare i commenti. Uno gli ha commentato: a Matteo, che t'hanno cagato nel piatto? Quindi, uno schifo immane. Ragazzi, terribile. Voi non capite che c'era un secondo fine in questa foto: cercare di smuovere l'animo più sensibile, più da Croce Rossina, della Isoardi, per farla tornare con lui. Ricordiamo che è stato aperto un gruppo Facebook intitolato Risa Ripensaci. Però insomma, capite, è un uomo distrutto. Da quando si è lasciato con la sua compagna, e adesso non è... cosa fa? Va a fare il ministro degli interni all'estero. Pensate, è andato anche in Israele a farsi notare, a fare il ministro, e se è uscito con la classica dichiarazione inopportuna, dice: dai, sono in Israele, faccio proselitismo lì, do dei terroristi ad Hezbollah. Così. Qualcuno gli ha fatto notare dalle nostre parti che da quelle parti noi abbiamo una delle missioni di pace più importanti, mettiamo a rischio la sicurezza del nostro contingente per dichiarazioni di questo tipo. Persino Di Maio ci è arrivato a dire quanto è grave questa cosa, no? E ovviamente Salvini ha cercato di buttarla in caciaro dicendo: ma ti pare che se il ministro degli interni dice una cosa, quella cosa può essere sbagliata? Ha detto: io i terroristi li chiamo col nome terroristi. Ragazzi, apri di cielo. Beh, ma Salvini dopo la io gli imbecilli li chiamo Salvini. Dopo l'altra settimana che ha rischiato, insomma, di mettere. Beh, ma alla fine sono scappati un po', eh. Appunto, dico, sì, appunto. Sì, 4-5 sono scappati, no, sì, e lì continua a dire di no. Cioè, veramente è un grande. Io spero che sto momento prima o poi finisca, perché il problema è capire se sopravviviamo. Anche se finisce male, ci date il materiale. Piuttosto finisca. Beh, il discorso è questo. Ora, facendo una sorta di come tanto dire... io e Marco Guardi stiamo vedendo Another World. Il gameplay di Another World 2, sì. Mica del primo. Il corollario serio, la frase che tu hai appena detto, è proprio questa: che se questo momento non finisce in modo brutto e traumatico, noi continuiamo a non imparare un cacchio e continueremo a ripetere i nostri errori fino a quando qualcuno, per il rotto della cuffia, non ci salva le chiappe. Noi poi puoi estenderlo geograficamente quanto ti pare, noi come Italia, noi come Europa, noi come razza umana, come preferite voi. Detto questo, Pizzi, vuoi tornare tra noi? No, è stato no. interessatissimo questa cosa, vabbè. No, perché poi oggi, se volete, cercate, se cercate sui vari corollari, insomma, di Telegram, insomma, non so dove si cerca roba del genere, c'è il gruppo di morti di bestemmie su Telegram, dove oggi Cusella ha condiviso due o tre link. Ne vuoi parlare, Cusella, di questi link importanti che tu hai condiviso? Ah, perché sono parentesi mentre lui li cerca. Ma il seguito reale di Another World non è Fade to Black, semplicemente? No, Fade Black è Flashback. Another World 2 si intitola Heart of the Alien, che è un seguito un po' apocrifo, che tra l'altro recente, però. No. È sempre stato fatto successivamente. Però non so neanche se era la Delfin che l'ha prodotto o se è stato prodotto da qualcun altro. Faccio un'errata corregge, dato che me l'hai detto. Siccome io in videoludica dico spesso che il gameplay completo di Another World è di un'ora e passa, in realtà il gameplay completo di Another World è di 30 minuti. Cioè, in 30 minuti tu il gioco, se fai la run, lo finisci. Vabbè, ragazzi, devo stare in un floppy, eh. Poi, però, noi ci mettevamo magari settimane o mesi, certo, per finirlo, perché era difficile, però comunque dura 30 minuti. Il seguito, Heart of Alien, che sarebbe Another World 2, che ha in più alcune animazioni, in più delle cose, insomma, è un po' più curato dal punto di vista scenografico, roba del genere, a discapito però della durata, che addirittura in 20 minuti si finisce. Quindi, anzi, bello, forse 17 anche. Quindi stavo vedendo... Secondo questo... me c'è gente che finisce 2 minuti. No, 2 minuti no. Ma secondo me si può fare. No, non si può che fare. Ti manca... ti manca, tu sei uno che tira, butta giù il morale della gente. Secondo me c'è chi lo può finire. Ci sono cose che non si possono fare. Ma come no? Si può fare tutto, Pizzi. Si può pilotare un aereo senza il brevetto. Si può fare il parlamentare senza avere la minima conoscenza delle istituzioni. Si può fare tutto, Pizzi. Sei tu che sei come quella gente che butta, basta essere nel 5 stelle, butta fango sulla gente che vuole fare le cose. Cioè, va bene, dici. Che vedi così? No, io vi vorrei raccontare della brutta disavventura che è successa a Fabrizio Corona. Non so se vogliamo raccontare subito. È una brutta storia. No, lo so, però Gusella stava dicendo. Vadi. Prima Corona è importantissimo. È successo che praticamente, secondo quello che ha affermato Fabrizio Corona, ha subito un'aggressione da parte di tossici spacciatori nel bosco della droga di Rogheredo. E che cosa ci faceva lui là? Faceva un servizio televisivo contro la droga. Faceva un servizietto televisivo. Giustamente. Ho letto un meme oggi bellissimo. E anche oggi raccontiamo un meme. Deve diventare una rubrica fissa. Ve lo sto descrivendo. Allora, c'era questo Fabrizio Corona tutto quanto unto, tutto fisicato, palestrato, no? Fichissimo, con la dentiera, perché ricordiamo ha perso i denti in carcere, l'hanno gonfiato di botte, giustamente, sì. e dice questo meme: fisico scolpito, tatuaggi da duro, poi volano due schiaffi e ne prende tre. Ma d'altronde è lui che si definiva un pugilatore, quindi uno un pugile, un pugilista, e che fa pena, che fa pena anche a tirare due cazzotti al sacco, insomma. Vabbè, comunque è stato, sembrerebbe che è stato picchiato da questi cattivi drogati. Non fatico a crederci. Però c'è un però, che lui non ha sporto denuncia. I carabinieri hanno, sì, lo hanno trovato praticamente, non dico in stato di confusione, ma a torso nudo, insomma, che stava lì vicino, e hanno visto dei segni di colluttazione, forse, non si sa, perché c'era qualche graffio, ma tutto sommato non è che stava proprio male. Caduto in un cespuglio, cosa è che ha detto? Perché poi alla fine lui, così, per chiudere la faccenda, ha detto che è stato comunque malmenato, insomma, che c'è avuto... Ma non è stato menato abbastanza. Ma non abbastanza. Questa è la notizia. Cioè, anche lui stesso lo ammette, non sono stato menato abbastanza. Esatto. Ma da bambino? Ma da bambino caso, no, quello sicuro non è stato menato abbastanza. In questo caso, però la testa l'ha sbattuta. Ci vorrebbe, purtroppo non ce l'abbiamo al collegamento, ma ci vorrebbe veramente Pippo Campo, sì, esatto. Il professor Campo, che salutiamo, che in questi periodi è presissimo. È preso. Prima di Natale, no, tornerà. Io ci ho parlato, sai qual è il problema? È che è Natale, tutti quanti con la depressione natalizia. È un casino, questo periodo è un casino. Tutti a cercare di capire che tocca fa Capodanno. Lullaby! Ma ci stai invitando tutti a casa tua, no? Capire perché ci organizziamo. Ma ha più risposto in chat, oppure no, se data la come al solito si è data. Poi c'è una soluzione per tirare sul morale, ovvero LG. Paura. Ah, pensavo fosse una battuta fulminante. Come diceva un comico, dice Piergi, riferendosi a Corona, subisce atti di bullismo dagli scoiattoli dell'idroscalo. Giusto. O da Monterodondo Scalo anche. Anche. Vabbè, per allora, tirare sul morale. Dai, dici. LG ha pensato proprio benissimo adatto di usare le capsule non solo per fare il caffè, ma anche la birra. Ah, beh, bella, sono d'accordo, d'accordo. Non ho approfondito, racconta. Quindi ci sono queste capsule in cui vengono in magazzino. Però il distributore, scusa, non deve fare più l'acqua bollente, deve fare l'acqua fredda. No, ma allora non è la capsula, nel senso che ci passa l'acqua attraverso, viene filtrata ed esce il caffè, ed esce la birra. È praticamente una capsula in cui viene fatto fermentare tutto il malto, l'orzo con l'acqua. Che schifo. La capsula quanto la spama la gente? Quanto birra produce? Non lo so, ma non è ancora stata presentata. È solo un'idea. Ma date idee, sai quanto io il teletrasporto, cioè, insomma. Però la presenteranno credo l'anno prossimo. Questa loro idea. Allora, scusatemi, l'Allabai che se la ride da sola ci ha detto: sto facendo la casalingua. E giuro che non me la sto inventando io. Salutiamo il tuo Non dire niente. No, ma penso che sarà consapevole di quello che ha detto. No, non lo so. Speriamo. Tu non entrare nei meriti. No, assolutamente, non mi permetterei mai. E vabbè, quindi. Ma sì, però non ci ha ancora detto che cazzo fa a Capodanno. Forse la casalinga. Sì, esatto. Non lo volevo dire io. Che schifo che fate, guardate. Ma sempre maliziosi, pensiamo male, certo. Vabbè, ma siamo arrivati alle 22 circa. Ah, comunque no? Ho trovato la notizia della cioccolata che diceva. Ah, allora diccela. Mercedes. Sto aprendo giusto appunto La Repubblica. La Repubblica. Allora, in effetti c'è una foto agghiacciante con questa spalmata di Nutella sulla strada, bellissima. Che spreco. Che tipo una sgommata di merda, praticamente. Ma gigante. A causa delle temperature molto basse si è solidificata formando una lastra di 10 metri quadrati di cioccolata. Allora, la notte del 10 dicembre una tonnellata di cioccolata al latte si è riversata. Al latte, che allora va bene che si sia riversata. Non è spreco. Ben vista. Si è riversata lungo la strada a causa delle temperature molto basse. Si è solidificata, appunto, formando questa lastra di 10 metri quadri. C'è appunto questa immagine con questi vigili che stanno a sparare la cioccolata. Che è sempre meglio che sparare a merda. Insomma, ma siamo sicuri che è una notizia nuova? Non lo so, c'è scritto. Perché io l'avevo già sentito una cosa del genere. No. Di quando è? Aspetta, te lo dico subito. 3 ore fa. Allora l'avevo già sentita 4 ore fa. Certo. 2 ore e 55 minuti. No, non può essere. Allora, intanto, voi andate avanti che sto leggendo la notizia. Guardi, in realtà si sta mettendo d'accordo per Capodanno con l'Alabai in privato. Vabbè, noi altro, insomma, che no, dire? Perché... Dicevo, siamo alle 22, va bene, no? Va bene casalingua. Dottor Pizzi, no, lei che è il ex machina di questo programma, siamo alle 22. Lo mettiamo un brano? Ma sì, adesso mettiamo un bel brano, così io posso andare a pisciare, che questa è una cosa che è importante. No, niente dalla strizza. Ci siamo già concordati prima della trasmissione e quindi on the Sherlin Genesis. Vabbè, Genesis. Ma quanto sono forti i Genesis quando facevano le colonne sonore di Disney, no? Fanno queste canzoni un po'. È stato Phil Collins che ha fatto la colonna sonora di Tarzan. Ma no, ma in generale la musica dei Genesis è un po' colonna sonora di Disney. È un po' anni 80, perché è un po', capito, un po' evocativa, un po' corale. Un po' Genesis di vecchia data c'era anche un certo Peter Gabriel. Venite tutti. C'è Michela De Paola che invita la gente. Noi Capodanno al Fiddler's Elbow. Sì, vabbè, l'abbiamo già detto. Come si intitola, Gualdi, il pub? Capodanno? Capodanno si chiama il Fiddler's Elbow. Gusella, l'hai sognato? A che cosa si riferisce? Non lo so, va bene. Comunque questa era praticamente la canzone dei Genesis che abbiamo scelto e adesso di cui non vi diremo il titolo. Di cui non vi diremo il titolo. Ma lo vogliamo dire perché siamo stronzi. The Shoreline. Io invece stavo leggendo qui che questa è una serata ferale, ragazzi, perché come i ghoul, come i ghoul, perché i ghoul ferali. Perché se da una parte in Italia stiamo come stiamo, in Gran Bretagna è stanno la sera del potenziale, del possibile, non è facile, di sfiducia per Theresa May, che sostanzialmente sta perdendo l'appoggio anche di alcuni dei suoi compagni di partito. Tu gliela appoggeresti? Beh no. Allora, Fiona May Se gli piacerebbe, c'è Teresa May. A Teresa May, che l'hanno perché messa lì. La riconosci perché c'ha sempre in mano una Kinder, una cioccolata. Eh sì, Kinder, certo. Sì, ma pure lei è un po' cioccolata. Due. È così, una se la mangia. Esatto. Con la bambina, una bambina, sì, la bambina. Ma poi quella è veramente la figlia. Io non capisco. È la figlia, davvero. Larissa è diventata 1,90 m. La te credo, bambina, te credo, no, per dire te che insomma, tempo se è la figlia della madre, insomma, poi. Cioè, è la figlia della madre, più pure il padre è un atleta, insomma, vedi bene, insomma, chiaramente. Vabbè, vabbè, comunque dicevamo che praticamente Teresa May, che è stata messa lì dai russi e dagli americani per disgregare e dall'interno. Cinesi, no? Non lo so, i cinesi, ma secondo me i cinesi ne frega un cazzo. Ai cinesi. Ma scusate, ma non era stato l'anticristo? Cioè 15. Quello è, viene dopo. Cioè, più in alto. Più cioè, alto, noi parliamo di quello che possiamo una sapere. Certa, una certa ci stanno questi qui. Esatto. Okay. Cioè, nel senso che sono quelli che fanno finta di decidere, no? Però poi quindi noi, non sapendo bene l'anticristo come è collocato, noi parliamo di quello che pensiamo di sapere, no? Giusto? Non è che possiamo anche parlare. Perché se non lo sapessimo, esatto, saremmo morti. Poi. Perché se noi lo sapessimo dovremmo fare la vita monacale. Quindi non ce va. A te, Sbano, te vado a fare la vita monacale. Ecco, vedete, quindi sì, io sì, non voglio fare la foca monaca. Che poi voglio dire, a mangiare come gli sfornati. A beve, voglio dire, la birra trappista è tra le più buone. Questa dovrebbe essere un'indicazione. C'è quel problemuccio della castità che secondo me in qualche modo risolvono anche. Ma sì, secondo me pure. Non tutti, poi perché io penso che tu, dopo che fai il monaco, no? E ci hanno dato la tua cella, quindi fai la vita da monaco, è un po' che fai il monaco. Ma proprio quasi di clausura, se c'è la cella, proprio. Sa, esatto, no? Cioè, nel senso, tu è da poco ma che sei. Ma il wifi ce l'hai dentro la cella. No, no, aspetta, che poi vi racconto una cosa. Devo trovare il modo di raccontarvela perché non è. C'entra una calzamaglia verde? È un po' delicato. No, non c'entra. Che non è una calzamaglia, era un pantacolla. Scusa, l'ho spiegato mille volte. No, hai ragione. Ancora non ti entra questa cosa. Perché una calzamaglia potrebbe essere anche maschile, tu lo sai. Allora, il pantacolla, non ti capisci certo. Bene. E praticamente che stavamo a dire? Ah, dice, tu sei il nuovo monaco che sta lì e da poco, insomma, vai nella tua cella e cominci a fare la tua vita di clausura, quindi di castità, come dici te, quindi fai il vino, fai preghi, fai l'orto, la cena, prepari la minestra e tutto quanto, e la notte ti bussano alla porta della cella. Chi è? No cazzo, so fratello Giuseppe. Che c'è fratello Giuseppe? Apri che ti devo confessare. Ma no, ma ho già fatto peccato. No, ti devo confessare una cosa io. Ti devo entra, dimmi, fratello. Scusa se mi tolgo il saio, scusa. Ma perché? Fa freddo? Prende un colpo, prende ecco, un malanno. Mettiti in ginocchio che. Ma sei tu che te devi confessare? Lo so, però non mi. Però devi... girati. Non che mi vergogno. Esatto, mi vergogno di quello che te devo confessare. Sei girato. È così che funziona. Brutte cose, veramente brutte. È l'orsetto Barzotto. Esatto, questo qua è. Insomma, invece, dato che Marco Gualdi. Marco Guardi ha fatto una domanda. Marco Guardi, no, non mi ricordo più. Ha fatto la domanda dicendo: ma ce l'hanno il wifi? Ah, il wifi. Allora. Io spero che non mi ascolti, penso non mi ascolterà mai, ma dai tempi di Netlog, io sono amico con un frate. Ok, di cui non faremo il nome. Ma tanto, cioè, vedi quanti amici frati ci posso avere, insomma. Fracazzo dei Velletri, famoso frate. Fracazzo, diciamo. Allora, un mio amico conosce un frate. Che ogni tanto capitava qualche discussione, Gesù, il Signore, ma io non so che. Belle discussioni, interessanti. Un giorno il frate mi manda il messaggio privato a questo mio amico, dicendogli: senti, ma ci sta. C'è un virus che mi ha riempito il computer di cose porno. Guarda un po', va sempre. Esiste un modo per cancellare tutto quello che è stato visto, il porno? Non quello che ho scaricato, quello che è stato visto del virus. Io ho detto: guarda, io non sono abbastanza competente per poterti aiutare. E al massimo mi posso fare una selezione dei video e dirti quali sono più belli. Quindi questi praticamente, perché nella loro celletta c'erano il computer e poi non so se navigavano col wifi del monastero. Scusa, insomma, Pizzi, posso dire una cosa in maniera brutale? Già c'è questo problema, tra virgolette, della castità presunta. Non fagli fa manco una seghetta ogni tanto, diventano pazzi. Peccato. No, vabbè, certo, il problema vabbè, secondo ti confessi, no, secondo me... è vero, c'è questo escamotaggio della confessione. No, secondo me lì il problema è un altro. Cioè, il fatto è che magari il computer non era il suo, magari, o che magari era del monastero. Era il priore. Cioè, credo, il priore gli ha dato. Cioè, ecco, fai questo. Fai questa ricerca, per favore. Il computer al priore so cazzo. E fai questa ricerca, per favore, che mi serve. È quello, capito? Intanto che io lo restituire, c'era tettegrosse.com. Secondo me non era che ce la faccia. Proprio una bella secondo figura. Me era il computer della biblioteca. Ma secondo me anche. Comunque l'avrebbero perdonato, perché secondo me gli altri fanno anche ma peggio. Invece a proposito di amici con la vocazione, nel frattempo mi sono praticamente raffreddato in tempo reale, così vi ho mai raccontato la storia di quel mio amico? Noi da adolescenti si giocava di ruolo a Dungeons and Dragons in particolare, che e, schifo, e nel nostro gruppo c'era un amico che si chiama tuttora Diego. Siccome in quegli anni noi eravamo abbastanza in fissa con tutto quello che erano cartoni animati, cose giapponesi, Diego cominciamo a chiamarlo. Io sono giapponese. Non diceva io sono giapponese, Arigato. Diceva assumi giapponese. Comunque, vabbè. Assumi giapponese, cercava lavoro, ragazzi. Sostanzialmente, insomma, questo amico da Diego abbiamo cominciato a chiamarlo Daigo, uno dei vari personaggi di cartoni animati giapponesi. Daigo a un certo punto diventò anagrammato, quando uscì Maison Nikkoku diventò anagrammato immediatamente Godai. Però questa evoluzione continua. Questo ragazzo ha premesso, a D&D faceva sempre il chierico. Allora a un certo punto abbiamo detto no, basta, non ti chiamiamo più Godai, ti chiamiamo God. Da lì per 15-20 anni della nostra vita abbiamo sempre chiamato God. Alla fine è entrato in seminario e si è preso i voti e adesso è sacerdote. Che tristezza, storia tristissima. Quindi da sì, God probabilmente Godo. Poi racconterò a microfoni spenti, racconterò anche un'altra storia. No, poi se ce la racconti rigi. Dopo la raccontiamo noi, capito? Eh no, ma questa perché ci sono dei riferimenti locali, non lo posso fare. Ok, vabbè, tu ci fai come un mio amico, un mio amico di Pescara. Esatto. E vabbè, quindi insomma, vai Marco, dici qualcosa tu. No, non so che altro dire, io vorrei dormire, francamente. No, non c'è idea. Ma facciamo una ronda per il web. Rimaniamo in ambito di chiesa. C'è stata una bravata. Aspetta, che adesso deve caricare la. Dice che Berlusconi. Ragazzi, dice la mail ha sfangata. Risuperata la mozione di sfiducia, potrà continuare la trattativa sulla Brexit. L'ultima ora delle 22:10. Quindi la daremo tra un minuto. Ci dice Rizzard che tettegrosse.com is for sale. Compriamolo. Ma era tuttazzozza.com, secondo me, il sito del prione. Chi era tutta zozza? Tutta zozza. Ma che schifo, sta cosa fa venire un schifo dentro. Ma comunque, restando in termini di film, abbiamo sentito che praticamente degli indirizzi internet, praticamente delle pagine dedicate all'Avengers 4, erano state, non dico hackerate, ma quasi da uno che praticamente aveva comprato i domini. Stacca tutto. Gli aveva comprato i domini e aveva minacciato di non ridarglieli indietro alla Marvel se non fosse stato invitato alla Premier, una cosa del genere. E scemi loro che se li sono fatti bene. Sì, cioè, sembrerebbe così. Poi c'era cose, sempre il sospetto che fosse un marchettone enorme, però insomma non mi sono aggiornato su questa cosa. Chissà se qualcuno del pubblico può. Comunque, ragazzi, pubblico pagante, io volevo pagante. Raccontare. Non... So che Simone forse l'asset, quella sigla lì non ce l'ha, però. Quale? Quella di quando parliamo di quella cosa lì. No, non ce l'ho. No, dopo rimedieremo. Però posso dire che ci sono una marea di fan film, fan serie, anche ma molto veramente belli. No. Alcune ben. Cioè gente ci spende i soldi veri. Cioè. Sì. Guarda, io dico sempre, questo esempio in Italia ce l'ha portato un'altra fanfiction dedicata a Star Wars, che era Dark Resurrection. Si spende più in fanfilm e si provano a fare più effetti speciali nei fanfilm in Italia che nel cinema e nella televisione reali. Beh, c'è una ragione, perché comunque spesso e volentieri questi team alla fine cercano di creare un business con questa cosa, cioè non con certo, il prodotto, però mostrando competenze, maestranze. Competenze che il cinema e la televisione italiana ignorano proprio per principio, perché proprio in Italia a prescindere certi generi non si fanno. Beh, perché non ci sono i soldi. Beh, oddio, dai, qualcuno che ha avuto il coraggio, tipo Gabriele Salvadores, ci ha provato, poi ha fatto piccoli. Per me Nirvana è un piccolo capolavoro. Ah, vabbè, sì. Ma sì, poi sì, se poi ha trasceso con il tuo ragazzo invisibile. Il ragazzo inguardabile, sì. Esatto, il ragazzo inguardabile. Che ha fatto pure il 2, che non, che di ragazzi, cui nessuno sa niente. Se lo dovevamo vedere comunque. Dai, quello è in The Market. Esatto. Che più o meno secondo me stanno sullo stesso livello. Invece, parlando di quell'argomento lì, sono usciti i primi, le prime notizie così molto spicciole, molto generiche sulla serie di Star Trek dedicata a Jean-Luc Picard. Vai, vai, parlacene, parlacene. Allora, si sanno pochissime cose. Una cosa che è stata detta è che per il momento sono previsti 8 episodi per la prima stagione. Potrebbe andare. E la seconda è che il ritmo sarà una via di mezzo a livello diciamo di velocità della narrazione. Sarà una serie definita più riflessiva, più calma di Discovery. E sarà una sorta di via di mezzo con Next Generation. Discovery è un po' schizofrenica. Esatto, invece quest'altra serie sarà leggermente più tranquilla, più riflessiva. E cercherà perché quasi, c'ha 90 anni. C'è il vecchio, dicevo. E cercherà di rispondere a tutta una serie di domande legate anche a Picard. Come di, che cosa è successo dopo la fine di quella che era dopo 20 anni della Nemesis, praticamente. Esatto, esatto. Che dopo 20 anni ancora c'è sto il Picard sulla sedia della casa sua. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Ma l'avrò chiuso il gas. Ho visto saltare qualcosa, ma non so che era. Non so, qualcosa è rimbalzata sulla testa di Pizzi. Sarà stato un gatto. Però non sappiamo. Secondo me qualcuno che giocava con gli elastichetti. Vabbè, d'altronde ci portiamo i pupi dentro la trasmissione, non è che fanno gelato al cioccolato, dolce al passalato. Invece, vabbè, questa era la invece sapete che c'è stata questa cosa divertente che Pepper Izzard sta proprio citando. Praticamente nei siti hanno fatto questo giochino per cui nei siti dedicati agli Avengers praticamente erano stati hackerati da Deadpool. Ah sì sì sì, c'erano delle cose di Deadpool, è quello che stavo dicendo io, l'avevano sostituito. Ha visto mai, speriamo che magari anche Deadpool entri a pieno titolo nell'universo Marvel. Il discorso è che con l'acquisizione della Fox da parte di Marvel, di Disney, praticamente tornano alla base gli X-Men e anche Deadpool. Beh, sarebbe se tutto va bene, forse potrebbero persino riuscire a fare un film decente sui Fantastici 4. Che per non esageriamo, sia stato brutto il primo film con Jessica Alba e gli altri, no, cioè, il remake c'era stato peggio. C'aveva diversi, almeno due cose positive. Uno Jessica era Alba, bellissimo. Uno era Jessica Alba, che era la cosa più importante. Due, perlomeno ricordavano i Fantastici 4. Sì, sì, cioè, sì. Quindi devo dire che nel tutto loro sommato era un film mediocre, però erano i Fantastici 4. Sì. La monnezza che hanno fatto ultimamente, che ho visto e che mi pento ancora di aver visto, mi sono che stavo cavando gli occhi, è una qualcosa di inguardabile. Infatti quel remake / reboot, secondo me volevano uccidere il regista a un certo punto. Sì. Perché io credo l'abbiano, non so dove l'hanno preso. Però erano studi, facciamo incazzare i fan così lo uccidono loro. Ma sì, esatto, veramente. Però veramente quel film come si fa ad affidare la regia di un film con un certo budget, con una certa aspettativa, ad un regista del genere, preso dalle liste di collocamento? Non lo so, con tutto il rispetto per i disoccupati, sono anch'io disoccupato in un certo senso. Però voglio dire, Che vuol dire sono disoccupato in un certo senso? È una storia burocratica. Ah, no? Vabbè, no, perché? Nel senso, non faccio più un lavoro dipendente, ormai sono un libero professionista, quindi sono un disoccupato. No, però voglio dire, come si fa davvero ad affidare un film con un budget di una certa importanza ad uno scappato di casa, così scappato di casa? E lo domando a Pizzi e Gualdi che si guardano i trailer nel frattempo. Sì, di giochi bruttissimi. No, stavo guardando. Non vi spiego perché, ma sto vedendo tutti una serie di giochi di una software house. Perché sarà materia, insomma, presto. Quindi. E c'è. Vedere, ci sono veramente, sono stati pubblicati giochi brutti per MPS, brutti proprio, detto il vero. Comunque rifammi la domanda che ti rispondo. No, per quale motivo vengono scelti per film con un budget di una certa rilevanza e con aspettative comunque diciamo di massa registi così cani che neanche René Ferretti? Perché? Ma a volte le produzioni scelgono i registi perché sono cagnolini, cioè nel senso fanno quello che dicono loro. Fanno quello che dicono le produzioni. A me sta cioè, bene, ma senso, almeno diciamo le capacità accademiche, quelle scolastiche ce le vuoi avere. Lo so, però è un discorso un po' lungo. Perché che io mi aspetto che se non vogliono un regista con un estro creativo, almeno ce lo devono avere con le capacità tecniche, perché sennò esatto, puoi fare soltanto monnezza. Sì, da norma so è così. Non so da che cosa ti sta riferendo di preciso. Ah, no. alla regia devastante della seconda versione dei Fantastici 4, quel reboot di un paio d'anni fa. Purtroppo non. No, poi c'era questa cosa della africanizzazione di uno dei personaggi, cioè della Torcia Umana, che diventava che improvvisamente diventava africana. Anzi, che non l'hanno fatto morire. Certo. Strano, infatti, quello. Che tra l'altro, essendo la Torcia Umana, mi immaginavo bruciasse a morte a un certo punto. Ma... non se invece no. Strano. Però invece vi racconto. A proposito di africanizzazione di personaggi, c'è un altro telefilm ultimamente che deve uscire, che è stato il remake del reboot di Cowboy Bebop in versione live action. Vabbè, ma di quello ancora non si sa bene. Ma sembrerebbe che il personaggio di Jet Black sarà nero e si chiamerà solo Black. Vedremo. Invece, a proposito, sapete che Netflix è in vena di riadattare, acquistare e rifare. È uscito un piccolo scandalo. Sapete che nell'ambito degli anime, quindi dei cartoni animati giapponesi, i fan sono molto, tendenzialmente tendono ad essere molto puristi e molto minchiosi. Molto cagagazzi. E non è andato giù ai fan dei Cavalieri dello Zodiaco il fatto che sia impredicato un remake. Tra l'altro il computer grafica di quelle brutte sembrerebbe, poi lo vedremo, insomma, in cui Andromeda, quindi Shun, il cavaliere della con l'armatura di Andromeda, nella nuova versione sostanzialmente diventerà una donna. Che schifo. Nella versione classica c'era una sorta di chiamiamola relativa ambiguità sessuale, nel senso era un personaggio con una certa, con un animo era molto, regna molto, motion, molto sì, era una gatta morta, ma comunque, diciamo, a prescindere dalla sessualità, lui era molto, diciamo, di un'indole molto buona e aveva questa armatura che, per un motivo semplice, l'armatura rappresentava la costellazione di Andromeda, di conseguenza, tra virgolette, aveva dei tratti femminili. Questa armatura aveva, diciamo, una forma aveva un evidente seno. Questo non voleva dire poi necessariamente che il protagonista, chi lo indossava, dovesse avere una particolare ambiguità sessuale. Ma erano i pettorali. Però al di là di quello, fondamentalmente Andromeda, Shun, è un uomo. E invece nella nuova versione la giustificazione dei creatori che stanno lavorando a questo reboot è che siamo in una fase in cui si cercano personaggi femminili forti. Allora, quale hanno preso da rendere donna? Politically correct di merda. Allora prendi deve il protagonista, morire. Prendi Seiya e trasforma Seiya in una donna. Se vuoi dare il messaggio. Tanto finisce con la A, quindi. Tra l'altro, personaggi femminili di carisma e di forza, fallo fare al protagonista la donna, non a quello. Però non è lesbica. Che te lo trovo molto offensivo. Delle donne, infatti, delle lesbiche. Però probabilmente ce ne sarà qualcun altro. Io non so minimamente di che cosa sta parlando. Per me i Cavalieri dello Zodiaco. Sì, ho capito, quello l'ho capito. Ma a me è roba proprio che non è mai esistita. I Cavalieri dello Zodiaco, quindi. Male. Sì, proprio no. È vero che te vedevi una puntata, te vedevi tutta quanta la serie. No, disinteresse però. Totale, nel più totale proprio disinteresse. Oh, ragazzi, abbiamo la prova provata che Stefano, che salutiamo. Ciao Stefano, non è Gusella. Già, buonasera ragazzi, ero rimasto al 666 e mi sono perso nel vino e mi sono perso la diretta, vi ascolterò tomorrow, buone cose. Per forza, sempre di ferite. Si è perso tutto il 666, si è perso il Satana, la parte dell'unica, l'unica parte decente di questa trasmissione. Si è vabbè, ma comunque vabbè, poi lo tagliamo i cavalieri. C'è Gusella che si sta tastando per vedere, insomma, se può avere delle metastasi. Mi sono infilato al dito un anello di velcro di adamanto. Allora attenzione, Gusella si è fidanzato con se stesso, mi si è ingrossato il dito adesso, cazzo, e non esce fuori, solo che è velcro. Gratta anche sta roba. Ma poi puoi anche spettucciarlo. Gusella si è lasciato con lungo 20 chilometri. È un fidanzamento che è durato veramente molto lungo. Sì. Però è stato breve ma intenso. È stato un momento, diciamo, rapidissimo, ma di amore puro. Non si piace neanche da solo. Ma lui non è come il canuomo, non è il miglior amico di se stesso. No. Probabilmente non ha avuto il tempo di fare una delle sue bellissime battute che si sarebbe fatto innamorare da sé. Sì. E invece, purtroppo, niente. Che schifo. Che stai a vedere adesso? No, questo che è? Queste astronavi, queste cose che volano. Sì, vabbè, non te lo dico perché sennò poi. Va puttana spoiler della trasmissione. No, è bellissimo che in diretta abbiamo Pizzi che si sta facendo i beniamati. Ma voi parlate di Cavalieri dello Zodiaco, ma chi cazzo ha mai guardato? Giocava a Candy Crush, c'hai ragione. Almeno faceva un po' di suono, dice. No, ma soprattutto non era il regista, se lo poteva permettere. Adesso è il regista, quindi la base va da sola, non ho niente da fare. Però se volete posso... No, non ve lo dico. Allora, facciamo così, Pizzi, un argomento a piacere. Allora, un argomento a piacere. Ma sapete che ultimamente sono sempre più interessato da questa questione dei fantasmi. E ho scoperto praticamente che praticamente c'è uno di questi gruppi che si chiama il Giap Roma, che vorrei ospitare poi in trasmissione una volta, se ci riesco, che vuole fare una serie televisiva. Ma dobbiamo far finta di essere seri quando ci sono questi no, vabbè, tu dobbiamo... fai le domande. No, vabbè, tu non ti faccio venire. Ah, paura, eh. No, ma cioè, a parte non credo che verrebbero mai, no? Però insomma, in generale, questi vogliono fare una serie televisiva. Allora, io mi domando, no? Cioè, se tu sei uno che vuoi far finta in qualche maniera, no? Cioè di dare una credibilità su questa cosa che tu fai, cioè nel senso, dici, guardate, per me io non vi dico che credo ai fantasmi o che quello che cerco sono i fantasmi, vi dico che cerco di dare una spiegazione più o meno empirica, se ce la faccio, a fenomeni o anomalie o roba del genere. E io ti dico, vabbè, allora se tu vuoi un approccio scientifico, noi diamo ben qui, insomma, vediamo un attimo. Ma se tu ci vuoi fare la serie televisiva, no? Se vuoi fare la serie televisiva, poi diventa fiction. Magari dopo fiction. Dopo fiction. Ma diventa fiction comunque, perché la televisione c'ha comunque delle regole. No, penso che siete d'accordo con me questa cosa. Ma sì, in realtà bisognerebbe un attimo capire quali sono le ambizioni, le aspettative, le intenzioni. Non seguendo bene il contesto non ti saprei neanche dire, però insomma è chiaro che... Salutiamo Lucio Plantone che ci ha appena raggiunto. Ciao. Buonasera a te. Ciao. Allora io... Pizzi, però una domanda crossover. Lo voglio chiedere un attimo in chat. Ma voi, così, se avete tempo nei prossimi 3 minuti, 4 minuti in cui rispondete, ci credete al fatto che possano esistere delle entità che sono rimaste un po' di qua, un po' di là? Che stanno... Tipo Renzi? Oppure, che ne so, delle energie residue... di un fenomeno magari che è successo, un omicidio, una cosa io drammatica. Credo nei body tetan. Cioè è un po' come la scureggia, che quando finisce il rumore resta la puzza. Esatto. Ci credete? Cioè, fatemi sapere se io adesso voglio vedere che cos'è. Guardi, il tu body ci credi? Tetan. Cioè, io non lo so perché sono il body tetan. No, che cos'è il è body tetan? È uno dei fondamenti di Scientology, non puoi non saperlo. Non conosco la body verità tetans. Assoluta. Ah, body tetan. Spiegaci, guardi, che siamo tutti interessati. È simile al concetto di of self, di sé e dello spirito e dell'anima, il tetan. Quindi se tu c'è il tetano, c'è te stesso. Ah, okay. Ma non hai visto Battaglia per la Terra? No, Battaglia come Battaglia per la figa. con John Travolta, film di fantascienza che tratto il libro di Hubbard. No, ho letto. Vabbè, comunque. Pizzi, tu che sei un po', come dire, il nostro esperto di costume di fenomeni di società. Non so se lo sai, non so se ti è capitato di vedere, se vi è capitato di vedere, mi rivolgo a tutti in questi giorni. Ma perché io sono esperto di qualcosa? Ma perché così, i primi spot televisivi della serie animata che andrà in onda a breve, non so bene quando, penso dopo Natale, su Canale 5, che ha per protagonista... È vero. Ma la cosa più assurda tra le cose assurde è che c'è questa incarnazione di Adriano Celentano, che è una via di mezzo tra un James Bond e un superuomo. Guarda, disegnato con, diciamo, sulle ho capito, se non so che cercare. Adriano Celentano, serie animata. Di un Adriano Celentano giovane, doppiato davvero Adriano Celentano. Io dico, che è vecchio. Ma non è tipo in uno stile anime. Sì, con un vago sì. Io dico, in Italia, cioè voglio dire, non si fa tutto. Il massimo dell'animazione che si fa in Italia sono le Winx. Una volta che si prova a fare qualcosa di diverso, cosa si usa? C'è Celentano Punk 2077, se sì, l'hanno preso per culo. Adrian. Adrian, sì, il nome esatto, la serie si chiama Adrian. Ti prego, aspettate. Adrian Celentano, io... Colleghiamo l'audio. Io non capisco. Aspetta, se mi passa il link colleghiamo l'audio qui, non è un problema. Il problema è che quello che ho trovato io mi sa che è un tipo una reaction, aspetta. Aspetti, aspetti. Parla, parlate intanto. No, lo sto cercando anch'io. L'anime di Celentano è un 99. Il 100... disegno è anche bello. Bisogna vedere l'animazione poi come è stata sviluppata. Io sono pronto a guardi, a mandarlo. Se... Allora, lo mando anche in chat, così lo prende dalla chat. Lo guardo dal simpatico Walter. Manda, bravo, anch'io bravo. Lo guardo da Walter. Ciao. Ciao. Disposto. Ok, l'ho messo anche in chat, così Walter si può collegare come vuole al cavo. Eh sì, no, siamo già collegati, qui la rete è quella che è, però ragazzi. Ah, ma proprio una cosa... Un attimo, perché c'è un po' di pubblicità prima, non possiamo... Tu, come ti chiami? Chi siete voi? Qui le domande le facciamo noi, d'accordo? Tu mi hai detto che ti chiami? Non l'ho detto. Dove abiti? In via Gruc. No, non ci voglio credere, ma cosa... Adria, la serie evento di Adriano Celentano. Come faccio a girare le palle io, non le fa girare nessuno. E vi giuro che non è una trollata. Gennaio 2019, giuro che non è una trollata. Io adesso lo metto in chat. No. Io ragazzi l'avevo vista questa già. Cosa, ma poi l'ho cancellata. Lei l'ha rimossa. Io l'avevo rimossa. Cioè, come sì, ma perché erano due anni che se ne parlava. Cioè, ma chi la fa? Cioè, scusa, io ho alcune domande. Chi ha fatto la produzione? Perché Celentano. Questa non è roba, fatta all'Italia questa. No, beh, proprio può anche darsi. Alla fine ormai è animazione al computer, non è che ci vogliono chissà quali mezzi. E magari lo hanno fatta fare, che ne so, in Asia, magari in Corea dove costa 4 soldi, questo non lo so. Però è uscito dal creatore, cioè, di Goldrek, no? Sì, cioè, quello col computer. Sì, computer. Se il computer con la faccia Adriana, glielo hanno fatto. E lui si è pure doppiato da solo. Poi ha detto: da dove vieni, via Gluck? Dai, per favore, ragazzi. Cioè, tu apri via Gluck. Ragazzi, cioè, è assurdo come se poi alle generazioni che possono essere attratte da un cartone animato freghi qualcosa da Adriano. Mi può fregare di meno. E questi sono quei geronti della televisione che non si vogliono assegnare al fatto di essere anziani. No, ma non è lui il problema, cioè lui magari hanno proposto e lui vabbè, dice, ma magari è un'idea sua. Sono vecchio, c'ho un cazzo da fare, faccio. Ma secondo me è un'idea sua, perché nessuno solo se sei così egocentrico. Ma poi non, cioè, non c'entra niente lui. No, sto cazzo. No, no, è uguale, la faccia uguale. È la sua, ma da giovane, lascia stare Simone. No, posso... dai, cioè è troppo grosso, cioè lui era No, è quello non mi ricordate com'era. Cazzo, cazzo. Allora, è quello il discorso, che è in versione Super Saiyan, che è ridicolissima, cioè lui è una specie di agente segreto, non si commenta, non ha senso, cioè non è neanche biografica la serie. Cioè questa serie in cui questa specie, ti ripeto, dal trailer non si capisce bene se è un agente segreto o qualcuno che deve risolvere i problemi dell'umanità, una specie di Neo The Matrix, non si sa. Però scusate, ma non abbiate stai pazienza. Il controllo. No, non è che sto stai stronzo, vaffanculo, ok. Vai, continua. No, niente, cioè, ripeto, io non riesco a trovare una spiegazione razionale, ma neanche irrazionale a sta cosa. Sì, un po' lo ricorda, però non è proprio lui, cioè... Vabbè, ma è normale, no, la faccio più o meno... No, l'animazione è fighissima, però, cioè, io la guarderò questa serie. Non riesco proprio a capirlo, anche l'operazione commerciale, cioè, una cosa del genere su Canale 5... Qual è il suo target d'utenza? I vecchi non se li guardano i cartoni. È quello che non riusciamo a capire. I giovani, ma chi cazzo è? Perché? Vabbè, il giovane magari non ce ne frega un cazzo, vede un cartone animato, se lo guarda. Insomma. Ma no, ma perché sicuramente non sarà in un target. Allora, i giovani non sono il target di rete. L'orario probabilmente non sarà e poi comunque ti ripeto, un giovane passa, vede questo e passa, con tutto rispetto per Celentano, dice: ma chi è sto coglione? Ma non per dirlo a Celentano, perché è proprio è l'operazione che non lo so, non ha né capo né coda. Manca la borra per rendere interessante. Magari c'è pure borra, quella, cioè. Che c'è, capirai. Allora, io a questo punto mi trovo costretto, non tanto per interesse o per passione, ma mi trovo costretto a sospendere il giudizio. Cioè, nel senso, non posso. Non capendo l'operazione, non posso dire né che è una merda, né che non c'ha senso. È proprio che è incomprensibile il fatto che su Canale 5 facciano un'operazione del genere, che comunque c'è un costo. Cioè, anche se tu dici ok, oggi l'animazione così sono facili, no? Che non è, cioè, propriamente esatto. Però comunque rispetto a prima magari costano produttivamente di meno. Non vuol dire che questo qua non è costato. Perché comunque cioè se guardate gli sfondi, guardate le animazioni, cioè è una roba fatta, allora, sai cosa succede? Fatta con i controcazzi, questa, cioè, no, a meno che non durano 5 minuti a episodio, allora sul disegno magari può non essere male, ma l'animazione ti assicuro che è abbastanza mediocre, però sì. Al di là di questo, sai che in alcuni periodi dell'anno fuori da periodo di garanzia, cosa? Quindi quando non vengono fatte le misurazioni per vendere poi gli slot pubblicitari dell'anno successivo, sostanzialmente si tende al risparmio, cioè si riempie il palinsesto di roba vista o già vista, di roba che costa poco, solo per fare mappa. Probabilmente questo programma andrà in onda in quel periodo dell'anno, che è subito dopo Natale, che è fuori fascia di garanzia, durante il quale una TV che comunque ha qualche problemino finanziario come Canale 5, perché se prima se la potevano, diciamo, passare bene con la pubblicità, adesso il business è fisiologicamente in flessione, magari è una roba che costava poco, gli copre qualche prima serata. Ma io con questa animazione mediocre che dici te la vedo. No, non è un granché, pizzo. Sì, vabbè, ma non è manco, cioè. Non è granché, cioè, dipende. Sono serie su Netflix che sono fatte bene. Allora, legnosa e pesante. Se la paragoni a qualunque prodotto che possa essere stato fatto in Italia, è anche in qualche modo ammirevole. Se la paragoni a una produzione di animazione media che puoi trovare diciamo negli Stati Uniti o in Giappone, è una mezza ciofeca. Vabbè, che c'entra il Giappone è un altro discorso. Dipende il parametro di riferimento che usi. Comunque, certo, rispetto a BoJack è animata bene, però voglio dire, non è quello, non è l'animazione che è lì che fa la serie, ecco. In questo caso non lo sappiamo. Indubbiamente non lo sappiamo, cioè, indagheremo. Interessante. Non è manco Jack. Non è neanche Jack. No, questa cosa è autodivinatoria quasi. Capito? Sì, come Gennaro D'Auria. Abbastanza. E farà una serie su Mike Buongiorno. Mike Bonzombi. Mickey Bonzombi, infatti. Quando uscì fuori con Alex. Non mi ricordo. Sì. Però era Mike Bonzombi che vince. Vabbè, sì. Ragazzi, sapete che vi dico che ci stiamo quasi a portare a casa pure. Grazie di averci reso partecipi. Che ha detto? No, niente, meglio non ripetere. Però dicevo. L'abbiamo quasi portato a casa questa sera, vogliamo fare, che ne so. L'abbiamo quasi fatta, invece stiamo di nuovo tornando nell'escapologia. Sì, esatto, fuggiamo prima, esatto. Che prima che Gusella emetta le sue flatulenze. No, vabbè, non so, abbiamo ancora. Abbiamo altri argomenti? Io non ho, non ce l'ho mai. Non ce l'avevo manco prima, quindi. Benissimo, Gusella, hai argomenti? No. Anzi, sì. Ma sì, che sì. Bella puntata. Però no, sì, dai. C'ho come argomento l'alcol, perché ho due notizie bellissime. Ah, vai, ci interessa l'alcol. L'alcol è sempre ben accetto. Aspetta. Guardate, un giovane vecchio si deve mettere gli occhiali. Ma lo mette per sentirsi grande. No, ma era anche ora che si mette gli occhiali, perché in realtà. Silenzio. È ora della notizia. Ah, Schio. Senti, questo è DJ che aveva suonato una sera. Forse Schio? No. Schio. Okay. E, stava tornando in hotel, è stato fermato. Ed era abbastanza sbronzo. Siccome non era la prima volta, allora è stato condannato. Ma l'hanno fermato in auto, cioè guidatore d'ebbrezza? Allora, qui c'è scritto: esistenza in stato d'ebbrezza. Qui c'è scritto: deve fare un tragitto di 800 metri dal locale dove aveva appena fatto ballare centinaia di giovani all'hotel. Non è specificato. Vabbè, teniamoci il dubbio. Per cui è stato mandato a scontare la pena. Dove? In un'enoteca. No. Mi sembra giusto, no? Vabbè, così lì impara a utilizzare giustamente l'alcol senza abusarne. Geni. Il protagonista è lo scledense Luciano Sbalchiero, in arte DJ Gaggia. Facciamo un po' di pubblicità, dai. Gaggia come la macchinetta Gaggia, caffè. Sì, come la macchina, esatto. Io ce l'ho. Oppure io so Gaggio, sto qua, so Gaggio. Questo mi sembra un po' troppo romano come definizione. Oppure dai, quest'altra notizia flash. Positivo all'alcol test, la polizia fa arrivare un amico a prenderlo, ma è ubriaco anche lui. L'ho fatta anche io, però. Questa cosa l'ho fatta anche io. Però mi hanno dato le chiavi della macchina, e questo è il problema. E questo è il problema, però vabbè, sono cose che succedono. Vabbè, mentre vabbè, Simone Pizzi pippa la coca, come avete sentito. No, sì, non so proprio il mio gran forma, però mi ricordo una volta. Sto sniffando il suo muco. Stavo sulla litoranea con un mio amico, con una pandina della Pizzi Assicurazione Illo Tempore, che era una pandina scassata. E tant'è che Proprio mentre che stavamo sulla pontina, prima di arrivare sulla Litoranea, si è aperto il cofano. E quindi l'amico mio che guidava, praticamente doveva guidare con la capoccia fuori dalla macchina. Però siamo riusciti a fermarci a un angolo della strada. Abbiamo trovato delle cinghie dentro al, insomma, nel portabagagli. Abbiamo Che ci fanno che i cinghie nel portabagagli? Vabbè, non facciamoci domande. Infatti non ti fa domande. E ci abbiamo legato il cofano in qualche maniera. Poi però sta macchina era sempre più, cioè, mezza sgarupata, c'era una luce che non funzionava, era veramente, era da buttare la macchina. Era tragedia, mi pare che addirittura non avesse neanche passato la revisione. Non ho capito perché io e questo mio amico, che eravamo già ubriachi, stessimo facendo questo viaggio di suicida quasi. Qualche spiegazione approssimativa ma attendibile ce l'avrei, però andiamo avanti. Comunque a un certo punto ci fermano i carabinieri. E l'amico mio, che sì, era ubriaco, ma insomma riusciva a tenere un po' la questione. Questi carabinieri, sai, quando i carabinieri quella sera proprio stanno in vena buona, cioè nel senso, non vorrebbero, cioè, è tipo io che so quello che te deve menare, sto cercate, fate tutto per non menate, perché è un po' questa così. E questo, vabbè, gli chiedeva documenti qua e là, assicurazione, e c'era scritto Pizzi dappertutto. Cioè questi fanno, ma sto Pizzi, ma chi cazzo è? A quel punto esco fuori io dalla macchina, e fino a quel momento l'amico mio mi ha detto: raccomando, tu taci, stai fermo e zitto in qualsiasi condizione, perché non ero proprio in condizione. Esco dalla macchina, sono io un Pizzi, signor carabiniere. E quello fa: ah, allora signor Pizzi, documenti, generalità. E non c'avevo i documenti appresso, chiaramente, me l'ho dimenticato. Vabbè, no, vabbè, allora mi dica le sue generalità. Signor Pizzi, cioè dove abita? Via Sanremo, fa numero 70 24 710. Che come Beverly Hills 90210 praticamente, che era il caso. Gli abbiamo dato il numero telefonico. Ah, bene. Vabbè, uno deve apprezzare, vabbè, l'impegno. Comunque il carabiniere ha detto: io adesso vi dovrei sequestrare tutto qua, perché io faccio finta che non vi ho visto, perché non ci voglio fare cioè. Però dovete trovare il sistema di scomparire, cioè nel senso di essere di diventare invisibili, nessuno vede in giro con sto trabiccolo. E ci ha lasciato andare, insomma. Però vabbè, è un'occasione rara. Ci sono anche buone persone. Sì, buone persone. Tempo fa mi è successa una cosa quasi simile, però io ho rischiato il sesso senza vasellina, perché su Via Salaria, per chi lo conosce, al Sette Bagni c'è un semaforo che si tende sempre a svicolare un po' a destra. Io al semaforo rosso, cioè allo scattare del verde, sono passato a destra a una pattuglia dei carabinieri che non li avevo visti, che mi hanno subito immediatamente fermato. E il carabiniere è arrivato col fare, detto: ora mi levano la patente. Il carabiniere mi ha fatto uno sciacquone, io non ho fiatato, si è preso i documenti ed è sparito nella macchina. Ha fatto, sapete quel test lì ho tirato il dado, ho passato il test di intelligenza, perché io sono stato lì. Il carabiniere aspettava che io dicessi lui non si è presentato, io sono rimasto in macchina zitto e buono un minuto, due minuti, cinque minuti, sei minuti, sette minuti, dieci minuti. Quando il carabiniere ha detto che io ha capito che io abbozzavo, facevo praticamente la tartaruga rovesciata, è uscito, mi ha ridato i documenti, ha detto: questa volta vada, ma non lo faccio mai più. Io: assolutamente, ma veramente, se avessi fiatato. Lui aspettava, come dire, il pretesto per rompermi le nautiche. Io non ho fiatato, l'ho scampata, però lì veramente ho rischiato, credo, il ritiro della patente. Io ho 26 punti, ho 30 punti. Ritiro della vita. Patente. Mai preso una multa in vita mia. Quella volta in un colpo solo potevo fare jackpot. Quindi ringraziamo quei carabinieri buoni, che poi si rendono conto che alle volte uno sbaglia, ma non vuole essere per questo un particolare delinquente. Non sbaglia, ma non vuole essere sbagliato. E ci passano sopra. Insomma, no, io invece oggi il dramma umano che potrebbe avere una persona media senza la patente. Che è di nuovo uscito. È fatto così. Scusate, dice Lucio Plantone, non ci sente più, ma noi ci siamo. Ci siamo. Però. Mi vedi un po' sei diventato sordo. Vedi, nel frattempo, mentre stai guardando vari cose, è saltato tutto. Tutto a posto. Confermo che tutto a posto. Quindi, che è successo? È successo che praticamente oggi stavo tornando da Roma, metti la luce rossa perché ci vuole la rabbia, e ad un certo punto, per ben due volte. Che guardi in macchina, è incline al berserkismo. No, cioè, se tu metti la luce rossa, io penso a cose che potrebbero essere successe poche settimane fa in questa proprio stanza. Proprio qui, in questa stanza. Leva queste luci. C'è la borra, cioè vai. praticamente per ben due volte con due macchine differenti mi sono ritrovato che io stavo sulla mia corsia di destra tranquilla, stavo andando dritto e uno dalla sinistra si è cominciato ad accostare piano piano, piano piano, piano piano, Marco, se uno piano, piano, piace. Piano piano, piano piano, fino ad arrivare tipo a 2-3 centimetri specchietto contro specchietto, quindi leggermente, e cercava di infilarsi dentro senza neanche mettere la freccia. E io per 2-3 volte continuamente, mentre il traffico ripartiva, acceleravo come un disgraziato, perché non dovevi passare, non devi pezzo entrare, devi morire. Giusto, no, giusto. No, ma io sono d'accordo, devi su questo. Dietro, sì, no, sì, sì, è un principio che applichiamo in molti. Almeno metti la freccia, fammi no, no, no, la prepotenza. Se tu che devi capire quello che sta, ma io non capisco, e sono pronto già con il CD in mano sulla mia tasca del portellone a fianco. Appena mi toccano, con la mia auto è addestrata a sbrattare sangue. Quindi lo dico subito. E all'occorrenza indossi anche un cappello, di la verità. Sempre, sì. Vabbè, collerino subito, insomma, anche se non te pagano. Comunque. Vabbè, quindi? Quindi niente, per ben due volte ho il berserker per uscire aspettando un piccolissimo tocco di specchietto che non è avvenuto, quindi purtroppo niente. Ci sei rimasto male. Vabbè, ragazzi, io su questa scena poetica io andrei a cominciare a tirare le somme di questa puntata, a fare qualche saluto tecnico e di circostanza, per esimio Robby Flontari, che è l'ultimo ad averci raggiunto, che ci sentirà poi nel ferite. Lucio Plantone, Peppe Rizzard, Davide Gatti che però era indaffarato, Stefano che ci recupera anche lui in difterite, Pier G, Lullaby, Mercedes Michela De Paola, chi altro è venuto a salutarci? Credo di averli ricordati più o meno tutti. Vorrei anche salutare quelli che in questo periodo non sembrano palesarsi in diretta, ma sono convinto che ci ascoltano ancora, come per esempio il nostro amico dal Belgio, Arturino Mazzei, e tanti altri che sono soliti farci compagnia, come ad esempio Leo Argione che oggi non c'era, Matteo Rigotto che non ci saluta in questo periodo, insomma, e tutti gli altri ancora, tutta la grande famiglia di ottimisti genericamente mortificati. Dice che ci stava sentendo Davide Gatti in quel dovunque egli si trovi in questo istante. È vero, ciao Davide. Nello spazio e nel tempo, perché a volte è lo spazio e il tempo che differiscono da quando noi stiamo facendo quello che stiamo facendo e da quando voi state ascoltando ciò che noi stiamo facendo. E questa è una cosa abbastanza importante, quindi io ringrazio e saluto, come giustamente detto, le luci nel finale diventano verdi, è una cosa importante, questo è bello perché il verde è sempre il colore della speranza, della e gioia del muschio. E della borra anche un po' a volte. È molto natalizio questo verde, mai quanto il rosso, ma è molto natalizio. È vero. Il rosso è scortico. Il rosso no, il rosso non va bene. Comunque www.runtimeradio.it, andate tranquillamente sulla sezione Runtime Anch'io, partecipate alla campagna Patreon, se proprio Patreon non vi piace, perché come abbiamo detto si sta un po' tarlocco barocco, si succhia un sacco di tasse, roba del genere, andate su paypal.me/runtimeradio e lì potete fare le vostre donazioni, perché ricordatevi che questo progetto che noi stiamo portando avanti è un progetto gratuito per tutti, ma allo stesso tempo non è gratuito per noi, quindi se ci date una mano e ben venga. Dalla prossima settimana verranno attivate finalmente le sponsorizzazioni, abbiamo firmato il documento fiscale che ci autorizza oggi a diventare partner di Spreaker, quindi alcune trasmissioni attiveranno questa funzione e avranno la monetizzazione. Vedremo nei primi tempi quanto funzionerà questa cosa, perché non abbiamo proprio la minima idea, però insomma dovesse un po' funzionare, insomma, magari è sempre qualcosa in meno che veniamo a rompere i coglioni a voi, insomma, di dirci dateci forse questi la soldi, volta insomma. Buona che diventiamo ricchi. Ricchi la vedo dura, però a noi ci basterebbe. Ma noi siamo ricchi di spirito, esatto. Nel senso che siamo pieni di birra di là. Di spirito. E vabbè, comunque detto questo, da me Simone Pizzi, da Marco Gualdi, picchiami pure tranquillamente. Ormai è diventato Marco Selfie Guardi. Finalmente il telefono. Aspetta, allora dai, fai così, senza occhiali forse è meglio. Vieni, vengo. E ringrazio e saluto ovviamente anche Simone Gusella. Ciao. No, la domanda è, mercoledì prossimo ci siamo? Perché no? siamo ancora vivi mercoledì. Allora non ci facciamo gli auguri. Ce li facciamo allora. Allora andate tutti a fanculo. Una bella puntata a tema prenatalizio la prossima, dai. Direi che sì, è doveroso. Poi cioè, nel senso non lo so. Sì, sì. Quello che vi posso dire, vi do un annuncio importante, che esce non sabato ma domenica la puntata di Videoludica. Sarà una puntata molto interessante sulle tecnologie con le quali abbiamo giocato per anni nel multiplayer dei videogames West Gen, ma soprattutto che il 21, che dovrebbe essere giovedì se non sbaglio, attenzione potrei dire una stronzata ma adesso vi confermo, non lo so, il 20, insomma giovedì prossimo, comunque ci sarà una puntata di Multimanie speciale di Natale. Molti di voi non conoscono questa cosa, ma poi insomma la capirete, è una cosa che ogni tanto torna, ogni tanto va via, e questa è una cosa divertente. Poi Arg penso che tornerà, insomma non so se non questo so, non si sa, non si sa, è sempre un problema di reperimento delle news. E invece i cazzi impari di Maya, quello dice che torna ma poi non è vero un cazzo, e quindi poi tutte il resto delle trasmissioni come al solito le seguite sono dal lunedì al sabato, insomma qua su Runtime Radio trovate tutte quante le nuove trasmissioni. Vi ricordo anche che è uscita anche oggi Data Nightmare in ritardo, purtroppo queste settimane esce un po' in ritardo, ma oggi è stato questo, non so se è già uscito, se no, è uscito fino a oggi pomeriggio, ok, allora esce domattina, probabilmente esce domattina, sono 40 minuti di sfogo di un Walter Vannini fuori di testa, quindi grande Walter, salutiamolo, assolutamente da non perdere, cioè, con tanto di bip, a un certo punto ho dovuto bippare perché quando le cose vanno, quando la ciabatta parte, quando parte, insomma. Quindi Simone Cusella, Walter Sbano, Marco Guardi, Simone Pizzi, salutiamo a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima puntata, ciao.